Scusa. C'è una strada. Va bene, buon pesce da prendere. Metti una transenna, lavoro in corso. Allora, per non allarmare, metti un camion bianco di traverso a bloccare la strada. Così non si allarmerà nessuno. Benvenuto in diretta. Oh, con... scusate. Bello come iniziare la diretta con un tentato attacco terroristico. Esatto. È il primo aprile, voi salirete di livello. Ehi. È uno scherzo perché saliamo di due livelli. Benvenuti da Tycoons & Dragons. Questa è la maledizione di Katta, atto 12. Come gli apostoli. O i mesi dell'anno. Dopo voi 13. 13? 13 Pietro. Dopo vorrei fare questa battuta. Ah, beh, prossimo sigla abbiamo già. Abbiamo già la sigla del prossimo. Va bene, devo scegliere una di quelle. Vabbè, ne dici quella che ci ha fatto sentire morti, le volte. Sì, dai. Bene, bene. Comunque, giocheremo sempre a Dungeons & Dragons versione 3.5. Ehi! Qua 5.0. 5.3. 5.12. Burocrati, secondo me. Riesce a boccare. E l'ultima release 5.0.3.4. Ricordandovi che ovviamente ci potete seguire sui canali social di Tycoons & Dragons e RGDR. Vi salutiamo. Io sono Andrea Giacomo Vecchi da Bologna. E con noi c'è Stefano Gamberoni. Perché ridete? Non ho capito. No, sono Andrea Giacomo Vecchi da Bologna. Ma fa ridere. È una cosa. È una cosa mia, è una cosa mia. Giulio Bosi. Da Bologna. Da Bologna. Bologna. Enrico Cattabriglia. Da Bologna. Da Bologna. Edoardo Saladini. Non da Bologna. È tornato da Marsiglia. È tornato a grande richiesta dei fan. L'abbiamo mandato. Rimandato a Marsiglia. Attenzione, non è una replica. Non stiamo mandando in onda una replica. Ancora 33 notti. And counting. Fai i segni sul muro dietro. Ma la prossima settimana. La parete bianca si presta bene, in effetti. Tanto quella. La devi pure riverniciare quando vai via. No. Vabbè, dai. È un mese sta. Va bene. Peccato. Katta, dici tutto. Tutto. Ma era un peccato se doveva riverniciarla. Bene. Buonasera, signore e signori. Siamo qui riuniti per celebrare la Sacra Unione. Santa Messa. Esatto. Mi guardi così. Oh, i nuovi padroni della città! Esatto, ricorderete tutti quello che è successo all'ultima sessione. Come dimenticarlo? Come? Alza la voce! Alza la voce! Poi zecca, alza la voce! Sono una droga questa cosa. Buoni? Madonna. Vai. I nostri prodi avventurieri erano... Dopo aver fatto mille piani che non hanno funzionato. Esatto, hanno deciso di andare... Per il buon vecchio, arrivederci e grazie. Esatto. Abbiamo provato, raga, abbiamo provato di qua, abbiamo provato di là, buono. Raga, dov'è il bambino che piange? Quando ci senti non ci sono io. Arriva. Arriverà dopo le cose belle. Esatto. Puntiamo a fare tutte le cose belle subito. Lasciare. E quindi i giocatori, come ormai... tradizione fare, hanno deciso di tagliare corto e è la prima volta in questa campagna lo so. Che vi mandate a puttane quello che avevo preparato. No, quello no scelte. No, quello siamo maestri, però che tagliamo corto la prima volta è proprio sempre mezza sessione. No, non avevo preparato qualcosa. Sì, cioè pensavo la notte passasse tranquilla fino al giorno dopo, ma invece tu volevi che noi andassimo dal vino rosso di sera. Vino. In realtà avevo preparato per il giorno dopo il festival del sole splendente, ma il sole non è più splenduto. Salutiamo. Il sole splenderà più radioso che mai. Il sole dell'avvenire. Il sole dell'avvenire. E quindi hanno ben deciso di tagliare corto nel cuore della notte, andare a bussare alla porta. Change regime nel cuore della notte. Dobbiamo organizzare il festival, capo, sì, lo facciamo. Alla porta del Borgo Maestro. Nuovo festival. In cui annunceremo il nuovo ordine della città. Il festival del sole piangente. gioite! No, siete tutti obbligati dalla legge a essere tristi. Finalmente possiamo essere tristi, sì! No, gioite per me, il regno del barone, di terrore del barone è finito. Ora inizia il nostro regno del terrore. Esattamente. Quindi, come avete intuito, c'è stato un bagno di sangue in cui l'ho visto cadere a terra nell'ordine alcune guardie, il povero Izek, il barone e sua moglie. E ricordiamo che sono... avete visto cadere? Sono tutti, sono tutti scivolati su oggetti più o meno... Più e più volte. Una disgrazia. Disgrazia che cambia. Cose che capitano. Esatto. Quindi, se si sta faceva poca manutenzione, noi saremmo più bravi. Beh, noi pensavamo di aver fatto la cosa giusta. Poi hanno detto che Izek era il buono dell'avventura. Però... esatto. Vabbè, buono, buono, no, ma appunto, dopo che lui ha rapito Irina quando l'ha vista per la prima volta, rapito dalla sua somiglianza. E anche lui poteva dire: mia sorella. Non ha detto. Abbiamo dato molta possibilità di parlare. Soprattutto non è proprio. Sarebbe cambiato qualcosa? No. Non è proprio la persona che si definisce un. Arci lo vuole uccidere dalla puntata 2. Una persona retta e ragionevole. Poi il poverino ha avuto una vita difficile, quindi i suoi modi di fare. Ha trovato la pace. Questa è la notizia buona e anche quella cattiva. Ci si può consolare pensando questo. Ammesso che sia vero, perché. Mi sembra voi lo sappiate che in questo posto è giusto, dobbiamo bruciare i morti. Ciò che è, ciò che è morto. In questo posto le anime non raggiungono l'aldilà, bensì rimangono qui a dannarsi ed ogni tanto ritornano. Ma allora abbiamo fatto con niente. Cioè, possiamo continuare a parlare. Ma che problema c'è? Anche Adenia è ancora qua. Anzi, adesso non deve non deve più mangiare, cioè non deve più andare in bagno, cioè è libero di fare quello che vuole. Questo non lo sappiamo. In realtà è un fantasma. Vabbè, magari vanno in bagno anche loro. Sì, pisciano ectoplasma e mangiano ectoplasma. Perché no? Hai visto Cast? Molla cicce, bravo. Molla cicce puzza, mangiano. E contemporaneamente defecano praticamente perché con queste citazioni colte. Cioè, un mangiano tra virgolette. Quindi arriviamo nel momento più... i nomi di Molla, Ciccia e Puzza, cioè questo neanche... Che sono... Non sì, merita un Inspiration, no, ma quasi. Merita un TSO, ma... E quindi giungiamo nel punto più agognato da sicuramente Race, poi più in generale tutti gli altri avventurieri, avidi, sgraffignatori. No, eravamo rimasti altrui. Con Race... No, ero rimasti con Race che stava frugando casa, Garrosh che era stato mandato da me dal baronetto a prendere il baronetto. L'ho preso e l'ho portato al piano terra di dove siamo tutti. No, non è ancora fatto. Non Perché c'era la botola segreta. È vero, sono andato al piano terra a chiedere alle guardie dove posso entrare. Io sono andato per parlare con la moglie del borgomastro, ma è caduta dalla finestra. Cioè prima su una lama, poi giù dalla finestra. Che sfiga. Pazzesco. E Rez Ward stava parlando con le guardie. Poi è arrivato mentre io stavo stavo organizzando la guardia cittadina, no? Mentre io stavo leggermente ridendo in faccia a Irina. A un'Irina disperata. Mentre tu, diciamo le cose cronologicamente esatte. Mentre tu stai convincendo le guardie a seguire noi, la moglie del barone vi cade accanto morta. Scusate! Io ho mandato la mappa così la vede anche Salla. Grazie. Avevate detto alle guardie di andare a recuperare le altre, se mi ricordo bene. Di chiamare Koljonovic. Koljonovic. E le altre guardie, avevo capito. Sì, sì, le guardie. Quindi. Una l'avevo mandata a Koljonovic e una. In realtà. Sì, questo gli hai detto. Sì, perché ora inizia la seconda fase. Esatto. Dopo l'uccisione del vecchio tiranno c'è l'occupazione di tutti i posti di potere. No, ora andiamo a uccidere quelli che hanno rifiutato di darci una mano. No, prima dobbiamo uccidere la vecchia. Esatto. E poi dopo andiamo a uccidere gli elfi. Ma no, dai, gli elfi non uccidiamo. Uccidiamo tutti. Vabbè, adesso il mio paladino l'ha amata in vacca. Non dovevamo dare la città in mano agli elfi. Sì, dobbiamo darla. Prenderemo le loro mani. gli facciamo una buca, la mettiamo sotto, così sanno in mano la città. Allora, qualcuno c'ha deve gestire la città mentre non ci siamo. Voi mandate le guardie a chiamare le varie persone e tirati dal trambusto compaiono i due i servienti, una cameriera e il cuoco. Oh bravi, preparate giù un tè. Rejoice! Che appunto molto titubanti fanno capolino dal corridoio e insomma cercano di capire che cosa è successo. Beh, questo sta chiaro. Vorrei io non ho toccato nessuno. Non preoccupatevi, se sapete è colpa loro se scivolano tutti. Adeguato manterrete i vostri posti di lavoro. Attenzione, i pavimenti sono scivolosi. Vabbè, arrivano. Che... Sì, no, cioè, sentono appunto quello che gli dici e sono un po' atterriti. E io però... gli dico, non temete il dispotico regime del barone è arrivato a suo termine. Ma... era mio fratello! No, non c'è il nuovo. Ma non temete perché siamo qui per preservare l'ordine e mantenere la pace a Vallachi. E voi non dovrete temere per il vostro posto di lavoro. No, tutt'altro. Sono tipo 2 metri, io chiudo una porta. E tiro? Tu... La città brucerà. No, non devi tirare. Tutto brucerà. Loro. Neanche se di fianco c'è uno che fa tutto brucerà. Si inchinano ai loro, a quanto pare, nuovi padroni. Sono due uomini. Tu, Reis, cameriera un po'. Avevi perseguito il corpo del barone. Avevi perseguito, avevi setacciato il corpo del barone. E non mi ricordo se, esatto, non mi ricordo se ti ho detto che hai trovato un mazzo di chiavi. No. Hai trovato un mazzo di chiavi. Hai trovato l'anello e lo stocco. Vuoi un po' di grazie. Non so quanto va bene. Ti danno troppo danni. Ah, io segno un mazzo di chiavi. Ah, c'è un'altra, quindi non tanto. Cheers. In realtà eravamo rimasti che Reis era andato in una stanza in cui c'erano due cani che era la libreria ed era tornato indietro chiudendo la porta. Io almeno era arrivato di vicino. Sentite l'abbaiare dei due mastini chiusi dentro la libreria. Ci farebbe proprio comodo un druido. Peccato che non ci sia mai quando ci fa comodo il druido. La cameriera è carina. La cameriera è una normale donna di mezza età, ma il suo viso non... dal suo viso non traspaiono emozioni. È apatica, un po' vabbè disorientata, immagino. Male, qua bisogna sorridere. Ancora non abbiamo ancora cambiato le leggi, non abbiamo ancora fatto in tempo. Sì, no, sorride, però è come se fosse, diciamo, un contenitore vuoto, manca di forza. Male, siamo fedeli al vecchio regime? Ho intenzione di iniettarle un po' di forza vitale a modo mio. Le metto... la provo a convincere... No, ci penso. No, la provo a convincere, non troppo con la forza, ma insomma, farle capire che me la porto in qualche qualunque camera. Non dovevi cercare il figlio. Devi cercare il figlio. Io ho chiesto alle guardie. Le guardie di dirmi dov'è. Io ti ho detto, portami il baronetto. Non so dov'è, e chiedo alle guardie. Ok, voi vi mettete a cercare il figlio. Tu nel frattempo cosa fai, Reis? Non ti sentiamo? Colpa mia. Vado nelle altre stanze più vicine, che sono... Dovrebbero esserci delle lettere. Sì. Vedete se quelli è? Vado verso... cos'è? BQO? Un posto cinese. Ok, verso BQO. Un posto cinese. L'ha andato in Cina. Le avevo prese dal cinese che era davanti a dove lavoravo prima. E però mi erano rimasti. Veramente tanto. Allora, OPQ. Cioè, sono tre stanze. Sì. Dove entri per prima? Dove siamo in I? Voi dove stessi? No, in I ci sono i mastini. L è la libreria. No, è una L, scusami. Voi, per parlare con le guardie e la servitù, siete al piano terra. E cosa hai detto, Salla? Ho detto, faccio prima Q, poi P, poi O. Allora, la Q è il bagno. E allora, niente. e c'è un le tubature che... No, a parte con le descrizioni, perché hai scelto l'acqua. No, questa, sono due frasi questa stanza. Scherzo. C'avrà degli antidepressivi, quelli stanno dietro lo specchio, come in ogni buon... E c'è questa catinella di ferro dove si fa il bagno, appunto. Poi, se non guardi altre cose, puoi entrare in P. In P c'è questa stanza. È una stanza molto finemente decorata e pervasa da un profumo molto fine e come se, è come se sapesse di talco e di fiori. E vedi questo bellissimo specchio appeso al muro e con intorno c'è questo, su questo tavolo e un portagioie e di fianco appeso a un manichino un bellissimo vestito nuziale. Il barone sta riposando in cioè, in fondo a destra c'è una porta che porta a un guardaroba. Chi è che si doveva sposare, che è impazzito, che era la figlia della vecchia? La figlia di Lady Vactor era promessa al figlio al baronino, del barone, sì. Ma l'hanno trattata così male che lei è impazzita. E quindi ma il baronetto è maggiorenne, mi sembra abbia pochi, tipo 16-17 anni. Ucciso, cioè era adolescente, l'avevi detto. Esatto. Scivolerà. E un'ispezione ti rivela che è troppo grande, appunto, nonostante l'ultimo matrimonio troppo grande di questa portata regale possa essere troppo stato rischioso. Quello appunto della baronessa, scivolerà. Il vestito è ancora, diciamo, pulito, utilizzato. Probabilmente lei se lo metteva addosso e si rimirava nello specchio per ricordare i bei giorni andati. E lo specchio è finemente decorato e di eccellente fattura. Ci sono varie orecchine con lane che la baronessa si metteva addosso per farsi bella e rimirarsi davanti a questo specchio. Valutare. Non c'è bisogno. Trovi. Ma soprattutto dove esiste. Sì, perché anche se esistesse, io sono dell'opinione che sia un'inutile perdita di tempo stare a cercare di capire quanto vale una cosa. Giusto, avete poi salire di livello. Esatto. E trovi. Tipo ottone non lo prendo, se oro lo prendo. No, selezioni oro. Le patacche da quelle che sono le quelle, diciamo, di valore. E prendi le trovi patacche. Un paio di orecchini di perla da 10 monete d'oro. Una collana d'argento di 7 e due anelli d'oro, anche quelli da 10 monete d'oro l'uno. Tanto tu lo fai solo per far vedere che rubi le cose, quindi prendi una patacca. Anelli da 10? Sì. E non ne prendo uno solo. Ok. E lui lo fa solo per far vedere che ruba le cose, per quello io ero convinto davvero che avrebbe preso una patacca. No, infatti mi sa che di tutto questo prendo solo un anello d'oro. Ma anche perché è tutto nostro, non dobbiamo prendere nulla. Stai rubando a noi! Stai rubando a te stesso! Stai rubando a noi! Anzi, nel nuovo ordine, tu sarai il volto, quindi tu sarai di fatto un nuovo barone. Ven sarà il capitano generale. Il capo delle guardie, sì. Fammi un perception. Io prendo il posto. Io sono la ragione. Io sono quello che ammazza le persone. Io prendo il posto dei due mastini. Praticamente. Scusa un attimo che devo trovare i dadi. No, io prendo il posto di. No, Arci, prendo. No, è un druido. Se volete prendere il posto di ogni mese governerà uno diverso. Il mese di Arci, già sentita per fare un bosco. L'ho già sentita questa storia e non era bello. Dica 11. Ok, a posto. E dopodiché tu ti dirigi in O. Dove trovi? Quella... Un nano e un... Ah no, è una cameriera che sta... È la stanza da letto del barone e della baronessa. Ti prego, dimmi che becca me la cameriera, sarebbe epico. Tu sei ancora di sotto. No, no, io l'ho portata... Ti ho detto, la camera più vicina fai tu. Stai piano di sotto. Che nano di merda. Ci sono delle camere? Ma ci sono delle camere sotto? O non le ho viste io? Ah no, scusami, la F. Hai letti... Sì, ci sono quelli della servitù, appunto. Sì, sì, va bene lì. Anche sarà un video sul letto del barone. No, sarà pieno di sangue. Okay. Questa è la stanza da letto dei baroni. E ormai le addobbi e la mobilia ha perso il suo antico colore. C'è poca roba di valore qua. E c'è una botola sul soffitto. Ok, intanto che tu fai questo, quelli sotto, che cosa? Tu appunto ti intrattieni con la cameriera e voi altri. Ma io ero di fianco a Reis dalla libreria. Io stavo cercando il baronetto. Sono andato a ordinare alle guardie di andare di là e di qua. Quello l'ho fatto all'inizio prima di salire dalla moglie nel coso. Ho detto due cose. Due io guardie volevo cercare il baronetto, chiederei anche a quelli della servitù se sono. Il cuoco ti dice che nella stanza della... da letto del barone c'è una botola che nella sua porta nuova stanza alla soffitta, dove il baronetto, pur di non avere nulla a che fare con i suoi genitori, si è rinchiuso. E diciamo che, visto che non mi interessa quello che fa Race mentre lui perlustra, io sto lì con Irina a ridere. Allora, però ha detto per evitare, hai detto le parole esatte, non mi ricordo più. Ho detto non avere nulla a che fare, è il tipico 17enne incacchiato, ribelle. Quindi potrebbe essere in realtà a nostro favore. Ma infatti no, io no, lui che... lui ha già detto che scivola. Che non questa sera, prima di firmare gli atti in cui c'è del potere. Ma prima o poi scivolerà, perché è troppo grande. Ora hai avuto 5 anni. Ora fai parte di un consiglio, devi chiedere all'assemblea generale allora, cosa se ne fa. Allora, non è che io non lo uccido. Va bene. Scivola. È un incidente. Per comodità, mentre apri la porta, entrano nella stanza Bardistran e Atanas. Per comodità, la porta è già morta. Cosa? È già morto. Chi? Il baronetto. No, io sono lì. No, appunto, andate dal baronetto, no? Ah, ok. Siete tutti e tre lì che entrate nella botola. L'aprite. E dopo aver diciamo respirato un po' di polvere, entrato in R. Che cazzo è quello? Che è elastico. E questa stanza polverosa è di larga e lunga 20 piedi, ha un tetto molto spiovente e arriva fino a 20 piedi d'altezza. Vedi che gli incendi e le travi sono tutto fitte, spiovente. Ragazzi, sono fitte di c'è proprio il dito, di ragnatele, e ad eccezione di una non scivoli, di un vecchio tavolo con una lanterna sopra, questa stanza è vuota. In una parete c'è una finestra e da un muro c'è una porta. Ah, non si incastrerebbe mai. Cosa fate? Stai un po' avanti, così sei dentro. Sì, sì. C'è una finestra e una porta. Non so, non avete molto imbarazzo della scelta. Prendete quella cazzo di porta, immagino. Apriamo la porta. Entrate nel magazzino dell'attico. È una stanza molto grande che copre praticamente tutta la lunghezza della casa, e tutto ciò che c'è, oggetti, mobilio dimenticato, è coperto da teloni bianchi, ovviamente. E il mio vecchio mi avrebbe bruciato tutto, cazzo. ci sono accatastati barili, casse. Perception. Il mio nuovo me sta cercando di contenersi. Praticamente è a casa tua adesso. Appunto per quello. È l'unico motivo per cui non sta andando tutto a fuoco. Attraverso il mobilio c'è come un sentiero libero per passarci attraverso. Va bene, io allora dico, baronetto. Cosa hai fatto in perception? 3. Ok, posso tirarla anch'io. Baronetto, esca fuori, non siamo qua per farle del male. Visto Giulio? Cosa vuoi fare di più? 2. Ok, brancolate nel buio attraverso. Vabbè, non avremo mobilio. Una torcia. No, vabbè, io lo chiamo. Una guardia di buio, esatto. Nessuno ti risponde. Ma scusa, non c'è Race? Tecnicamente è buio. Sì, c'è Race. Race to non perception. Non perception. Non perception. Mi sa che me l'ha fatto tirare, ma non era quello o un altro? Quello era per la botola. Ma vabbè, non c'è molto da percepire in realtà in questa stanza. Semplicemente passando attraverso sti mobili arrivati dall'altra parte dove c'è una porta. Ce l'avete una porta? La porta. Tutti i mobili sono una torcia. No. Ma poi ci sarà anche la luce. Ha una maniglia e appesa a questa maniglia c'è un cartello. Sì. Sul cartello c'è scritto: non disturbare. No. Dice: entrate. All is not well. Cioè, tutto non va bene. Ok, faccio una prova di forza per sfondare la porta. Cioè, non va tutto bene, quindi no. Come va interpretato? Sì, ti ricordi il mantra del barone che diceva tutto andrà bene? Ah, lui ha scritto tutto non andrà bene. Ah, okay. Tu hai detto che fai irruzione. Quindi entriamo, vediamo un teenager con la t-shirt di un gruppo punk. Che ascolta qualcuno ha qualcosa in contrario se io sfondo la porta? Beh, ormai non è che chiedi permesso. Oh, è stato carino. Aspetta però, attento. Dopo la devi far riparare tu, Oddio, ultimo dettaglio, c'è sulla porta scritto c'è una bomba. Scolpito un grosso teschio, proprio come ogni porta di un sedicenne. Okay. C'è questa di canna, colore di canna. No. Non la sbomba. 2? No, vabbè. Il secondo 2. C'è qualcuno che è contrario che sfondi la porta? Ricorditi della sessione scorsa. Forse questa sessione non sarà così. No, c'è qualcuno che è contrario che sfondi la porta? Sì, la porta. La porta. 6, non la sfondo. Magari ci sbatti mentre ti avvicinavi. Ti è parso di sentire una voce provenire all'interno che si è fermata nel momento in cui hai fatto boom contro la porta. Provo ad aprirla io. Come una persona normale, giro la maniglia. Allora. Non hai neanche provato ad aprirla? No. Quando mai ho provato ad aprire una porta normalmente? È probabilmente chiusa in qualche modo. Vabbè che lui è convinto. No, sarà sicuramente. Giri la maniglia sì. E al centro del teschio si illumina un simbolo magico. La trappola. Ti avevo detto che dovevo sfondare. Era meglio sfondarla veramente. Così li prendi secchi, non c'è un tiro a salvezza? Io so come funziona. Io dov'è il ladro? Io di questa avventura non so nulla. Non ridere finché. Ma il mio personaggio sa. È vero, ma non ridere finché non ti dice che non è ad aria. È il principio lo stesso. Il mio sfondare la porta aveva senso. Aveva senso sfondare la porta e non aprirla. Madonna, comunque penso sarebbe comunque andato, no? Non lo so. Sì. Che cazzo è scritto? Una volta aperta. Ormai è aperta. Cioè sarebbe andato all'interno, magari perché non è il bambino. E ragazzo. Una cosa, investigation check, the side, bla bla bla. Dopo vorrei sapere com'è andata anche la mia scena. Va bene. Magari dopo sorride. Sei un nano di merda. Ah, ok. Veramente dopo vorrà fare un nano barbaro che ha conquistato. Ogni creatura nell'area deve fare un tiro salvezza sulla destrezza. Oh. Che cazzo state facendo? Mezzo ha provato ad aprire una porta. Ha aperto la porta, c'era un simbolo magico sopra. Tiro salvezza sulla destrezza per tutti e tre. 20. Suppongo di mezzo. Suppongo Race fosse più indietro rispetto a quelli che si sono precipitati. Anche se sì, sì, sono tutto un ladro, quindi non sono neanche però è uguale. Dove? 20. Ok. Vedi, dopo 2-2 di fila ha fatto un 18. Statistiche. Lo scelgo che sia il secondo. Io sto bombando. Mi sta scappando la cameriera. Sì? Sì. Tu dire? È arrivata la cameriera, abbiamo appena conquistato un posto, da buon nano barbaro idiota che sono, ci sta. Cazzo. Ah, stai stuprando la cameriera? Non la sto stuprando, l'ho portata con me in una camera. Quella apatica? Sì. Non la sto stuprando, voleva entrare, l'ho forzata. Sono... scusami, ne voglio far sorridere. 28 danni tonanti. Mi sa che vado sotto io. Di brutto anche. Scusa, quanto... Sì, e lui è 4 tipo. Sta sotto. E io ne prendo 14, quindi se ne vado a 15. Ma c'è... Cioè non voglio, anche se prendi tanti danni, non c'è un discorso di, cioè il massimale è il tuo massimo, cioè il tuo massimo. Ah, cioè se subi, se vai sotto, se prendi un colpo che vai a meno 56 nel suo caso. 36 tutti fanno l'attimale. Ok, mai. No, sarebbe 40 mi saldo totale se non avessi la sfiga. La vedo la sfiga. Ma io te l'ho detto che c'è il modo per togliersela la sfiga. Ma tu non vuoi fare? Comunque ora sono sotto. Oh! Chissà, vero, puoi uccidere il baronetto. Esatto. L'unica volta che volevo un minimo ostacolarti di nuovo. Questo è un attacco. Questo è un attacco, cioè un'aggressione. Hai ragione, però. Noi non sta. Cioè, lui stava aprendo la porta, non stava facendo niente. Non c'era scritto non aprire se non muori. Okay. Non c'era scritto. Vai. Ha detto roba a terra. Questo comunque non vi impedisce di vedere il contenuto della stanza. Ah, si apre? Sì, sì, la porta si apre. Tranne che all'uomo a terra. Vi sembra che qualcuno abbia preso vecchi mobili, robe di scarto, roba. E, insomma, abbia saccheggiato una discarica di arredamento per creare una specie di studio in questa camera polverosa e comoda, perché hai il soffitto a picco sopra la testa. E ci sono dei tavoli che sono coperti da tutti questi pezzi di incartamenti con delle note, degli appunti che li collegano tra di loro. Comunque questo è la stanza di un detective di un film o di un complottista. Esatto, sì, più di un complottista effettivamente. E per terra vedete, cioè una serie di strani diagrammi disegnati e sulle librerie delle pile di ossa. E appunto per terra c'è questo tappeto polveroso. Sì, purtroppo anche. Oddio. E, una mano gigante. Ci sono diversi gatti, ma erano ex gatti. Si tratta di scheletri di gatti rianimati che girano per queste stanze. Esatto. E la cosa più disturbante di tutte, però, non è questa. Dall'altra parte della stanza ci sono praticamente. Vedete tre figure piccole come di tre bambini che stanno in piedi guardando l'angolo opposto della stanza. E solo tre castori piccoli. E detto tutti questo, niente. Quelli, cioè sono quei puntini alto a destra che si vedono. Cioè stanno guardando l'angolo. Rumoroso per essere a zero punti ferite. Cioè stanno guardando l'angolo? Sì. Sono come in castigo. Come in castigo. Ma sono vivi? Cioè, sono immobili. Sembrano vivi però. Non bambole o cose, sembrano nella bambini. Penombra, nella polvere, nella... sembrano dei bambini in castigo. Quindi non c'è il teenager. Non vedete altre anima viva, soprattutto perché i gatti sono non morti. Ma ce n'è sul cielo? Non si vede niente. E continuate ad avere un uomo a terra. Vabbè, io cerco, stabilizzo Vezza. Ma aspetta, vabbè, sì, tanto non c'è il barone. Devo stabilizzare, tanto non mi potete curare, quindi io rimango a terra. Devo fare una prova di medicina? Okay. Sì. Sarà molto divertente. Laz non c'è, Arci non c'è, l'ultimo che potrebbe curarmi sono io. Ai ai ai ai ai ai ai. Vabbè, mi sa che è 10. Tiro. Tiro. Vabbè, c'è anche lui che può stabilizzare. 11. Più uno. C'è anche lui che può provare. Prova a restabilizzare. Ray, se vuoi provare a stabilizzare il povero Vardistra. Sì, con un coltello in mezzo le putelle. Devo dire, non ci sei. Hai solo coltelli. Tu sei lì vicino, eri un po' più indietro, ma. Oh mio Dio, ti salvo io. niente, perché non hai dadi. Devo dire, non hai dadi. 19. Wow, stabilizzato. Cioè, senza dadi è più facile. 19, evidentemente. Non hai dadi. 19. È stata questa la piace, mi piace che... questa cosa. Quello che mi piace proprio questo. Non hai dadi. Poi è 19. Oh no, non ho i dadi. Anch'io, prossima volta. Non faccio questo. Grazie, Sdigli. Ora uccidete il baronetto. Il BS. Ma non c'è. Trovate e uccidete. Io guardo Race, hai idee? No. Perché io ne ho una. Dare poco a tutto. Ma è casa nostra. È chiaramente un abominio. Quello che vuoi, per me è indifferente. Ma scusa, è casa nostra. So che mi pentirò di questa cosa. Cioè, io da una parte, se vado avanti, prima voglio far passare del tempo e curarmi. No, vabbè, posso andare avanti io. E quindi dai poco a tutto, così ti lasciano un attimo in pace a riposare. Invece. Cioè, se vuoi vedere se c'è il baronetto, ma per me possiamo uccidere tutti. No, però potresti guardare gli incartamenti, provare a farti un'idea. No, vabbè, vado guarda, avanti. Cioè, tutti i grafici che vedi davanti adesso. Stregoneria. Beh, non è detto. Probabile, però prova a capire qualcosa di più. Magari stai trombando alla esatto, non c'è la religione. Cosa fate? Vabbè, io guardo se c'è qualcosa scritto in celestiale o in elfico o in comune. Ok, allora, quindi dai un occhio agli incartamenti. Dai, fammi un arcano. Boh! 20 naturale o un più 1 intelligenza, quindi 21. Mamma mia. E ho un meno 3. No, studiando gli incartamenti e trovando il questa la so. Un libro degli incantesimi. Ovvio. È lì. Dove, per tua informazione, ci sono scritti vari incantesimi, splash di acido, animare morti, blight, cloud kill, dark vision, glyph of warding, levitate, mending, tanto non posso usare, quindi libro incantesimi. E trovi appunto la... Beh, diciamo, lui non li può lanciare, se è un mago, perché non ha più il libro. Tra l'altro, lei li può preparare. Ce l'ho io il suo libro. Gli lancio prendi io il libro. Gli lancio io gli incantesimi. Non faccio. Gli prendi il libro. Esatto. Eccolo. Beh, se l'ho trovato, lo starò sfogliando e quindi l'avrò già preso. Ti dice mano. La mia domanda è: te lo porti via con te? Per ora sono ancora lì dentro. Manuale di quindi fuoco. Sì, lo tengo io in mano. Per no, dico quando poi te ne andrai. Probabilmente sì. Ah, okay. Trovi la parte piena di appunti e di scritte. E capisci che stava studiando una versione incompleta dell'incantesimo cerchio di teletrasporto. E mancano alcune pagine, quindi probabilmente il povero ragazzo stava cercando di completare da sé l'incantesimo per riuscire a fuggire da questa terra maledetta. Regà, mi sa che bisogna ammazzarlo quello. In virtù del fatto che è forte, quindi è pericoloso. È forte. Il cerchio della sporta non lo sa lanciare nessuno di noi. Ma quindi va ucciso, no. Per questo non capisco il collegamento. Ma forse neanche lui. Vabbè. È una minaccia. Ma tecnicamente anche noi siamo una minaccia. No, noi siamo un po' per te. Ma cosa sono questi bambini in castigo? Cioè il mio giocatore. È un'ottima domanda. Peccato che tu sia prima di senso. Vai, andate a vedere i bambini nell'angolo. Io sto guardando gli incartamenti pian piano. Okay. Vabbè, trovo sto libro di incantesimi. E, il libro degli incantesimi fai un po' di, insomma, di confronto con quello che c'è nel cerchio disegnato per terra e vedi che ci sono anche per un non esperto degli errori palesi, e questo appunto questo faccio meglio io. Potrebbe portare a delle pericolose, insomma, cioè al minimo questo avvocato Cthulhu senza sapere. E quindi ha fatto un cerchio di teletrasporto, ma ha fatto male. Questo è quello che si capisce. Ma mettere l'incantesimo sul teschio invece è stato fenomenale. Una cosa stupida è che non ho perso un passaggio. La botola era chiusa dall'interno o dall'esterno? Non era chiusa. Okay. E neanche questa porta, quindi a parte il sigillo. Sti cazzi. No, però non era chiusa a chiave, quindi era tutto aperto. Lui poteva entrare e uscire come voleva. Lui poteva, sì, non è stato rinchiuso. Ma non si è neanche chiuso dentro. Quello non volevo si capire. È chiuso dentro perché appunto sapeva che nessuno era così stupido da entrare. E invece la porta. Ragazzi, il master ti ha appena dato dello stupido. Le tre figure nell'angolo sono tre bambole che raffigurano tre bambini messi appunto in punizione. Guarda Isabel, degli amici. Oh, che bello, dice Isabel. Tu sei? No, io non parlo. No, cioè, credo che la sento solo io, mi sa. Tu la senti parlare, voi non sentite niente. Ma io questo tu lui. Lui soprattutto. Lui soprattutto. Magari da morto la senti. Lisa, ancora tu. Bene, cos'altro fate? 15. Se lo facciamo, Reis? Prova a cerchio di te. Allora, se tu. Possiamo tornare indietro e vedere com'è il resto della casa. Altrimenti io posso andare avanti. No, no, beh, possiamo andare avanti. Faccio. Mi curo. Un secondo. Prima di trovare il barone, facciamo un attimo il punto della situazione. Prendiamo in mano. Vabbè, cioè, se il barone era una sega che abbiamo ucciso così, non è che il baronetto può essere Dio. Invece, no, non per quello, nel senso, raduniamo un attimo le guardie e facciamo il punto della situazione, visto che lei chiamate raccolto. Le chiamate lui a raccolta. Vabbè, li abbiamo chiamate a raccolta, aspettiamo in questo momento quello che deve parlare con le guardie non è in grado di parlare con le vabbè, guardie. Sì, vabbè, possiamo io anche... Io posso uccidere le guardie, però... Possiamo anche un attimo... Arci, dove sei? Arci, muoviti! Ehi, la sparata di Dracula, se lo devo prendere. Ma te la spara, nessuno di noi sa. Abbiamo le pergamene. Ah già, non è vero che ci sono le pozioni, tu hai una pozione addosso. Lo scroll. Lo scroll bisogna lanciarlo, io non posso lanciarlo. Posso tirarti una martellata? Allora ho solo il cool wild scroll. Io posso cercare di darti tutti i punti negativi che ho. Beh, in realtà... Cosa? Approfittare del corpo, no vabbè, adesso facciamo così, guarda come te la interpreto. Chiamiamo anche i nostri amici. Ma te sei lì che stai guizzando? Sì, no, lo dico in maniera generale, quando ci saremmo raccolti tutti. Mandiamo a chiamare anche i nostri amici, chissà che almeno uno dei due non arrivi. No? Ma se si riposa anch'io mi... Se passa un'ora puoi fare ai benefici di un riposo breve. Vabbè, penso che in ogni caso passerà almeno un'oretta, tempo che le guardie arrivino e tutto. Dipende cosa fate o cosa succede. No, se tu vuoi andare avanti e trovare il baronetto Reis, ci sto. Se vogliamo riposare e aspettare, allora riposiamo, aspettiamo che arrivino anche i nostri. Tanto è notte, okay. Adesso no, ormai notte fonda. Tanto ormai è notte fonda, quindi almeno l'alba la tanto vale che l'aspettiamo. Sì, io vado a dormire nel letto del barone. Beh, io direi che allora mi addormento con la sigaretta in bocca e... Ma okay. Aspetta, sorride. Da lì? No. Ancora niente? Un sacco di patate. Pure. Però ti dice grazie. Ve lo ricordate Marco Bale? Ma con questo tono. Pure. Ok, ora vai, ciao. Dormo. Aspetta. Anche, vuole le cose. Su, dalla stanza ci sono altre porte. In quella dove con le apatiche, esatto. Ci sono due finestre che danno su un balcone. Ancora, Giulio, ancora con queste finestre? Non hai detto veramente tu ce l'hai con le finestre. Ma vuoi buttare giù qualcuno? Sono state aperte. Faccio. Sono chiuse. Aspetta, chi sta per buttare giù? Faccio un defenestration per capire che fine può aver fatto il baronino. Aggiungi defenestration come abilità. Sono le 5 più 6, 8. Forse si è teletrasportato. C'è un cerchio di teletrasporto. Si è fatto male. Hai fatto magari, se te l'hai trasportato male, se compare una roba tutta in mondo. Una orribile, un abominio. Una gamba qui, una testa al posto. Non si possono riprovare il troll, no. Però poi, volendo, puoi riprovare teletrasporto così come l'ha fatto lui e vedere. No, io non posso usare incantesimi neanche volendo. Se no era carino vedere cosa ti succedeva, quindi è quello che è successo. Vabbè, sì, era molto divertente. Controllo le finestre e nel caso le chiudo in modo... Come Bart col corpo, con la testa di mosca. Esatto. Le sbarro, non so, chiedo a Ray se può guardare in giro, se nota qualcosa di particolare. Vabbè, gag a parte, prima di dormire c'è... Cioè... Oh regà, tutto bene, io sto da Dio, però... Chiedo loro che cazzo sta succedendo. Siamo ancora in una stanza in bagno. Si può fare, briga, vado a setacciare un po' l'area. Sì. Per un perception. Dai. O un investigation. Ma... Dipende, dimmi che cosa fai, io ti dico cosa tirare. Cosa stiamo cercando in particolare? Tracce il baronetto più che altro, però vabbè. Allora cerco di controllare. Dimmi tu in con che cronologia finisce il tutto e se posso aggregarmi a loro mentre stanno ancora lì. Direi quando finiscono di fare sta cosa. Abbiamo perso il salvo. Laghino laggallo. C'è un errore. La riconnessione in corso. La connessione è scadente. Triste. Perché è entrata mia cugina in trasmissione, ecco perché. È un po' che non ci seguiva. Ciao Jimmy. Ciao. Allora, non capisco se sta... cosa sta succedendo? Skype audio dice. Quindi l'audio in teoria sta andando. Ah, forse prova... Boh, non so. Ding. Come fa a si la parte di questa gara? Finché non è. Te mi risponde che ti sta chiamando anche lui. Ha funzionato? Pronto. Bello. Ciao Salla. Ciao. È stata colpa mia. Sto facendo un'altra roba e Windows non mi piace. Vez aveva già dato colpa a sua cugina che aveva iniziato a seguirci. No, è stata colpa mia perché sto facendo il logo per un'altra roba e quindi dicevo guardo se qualche oggetto si è spostato. Sì, facciamo un podcast. Un logo per un'altra cosa. Sì, voglio fare un podcast. E voglio vedere se qualche oggetto si è spostato. Se fai bravo, Vez, ti invito anche a una puntata. Come si chiama il podcast? Si chiama Sallotto di Cinema. Oh! Grande anticipazione. È un podcast da ospiti e parlerà di cinema e serie TV. Fico. Dica, cosa... Vabbè, non c'entra un cazzo con... Dicevo, volevo guardare se qualche oggetto è stato spostato, se tipo da una fuga, oppure se... qualcosa è stato aperto e chiuso di recente, no, meno impolverato da altre cose. Certo. Cioè. No, piccolo di allora. Comunque ho fatto sì. 20 naturale. Comoda, comoda la vita. Sì, è vero. Vabbè, ha fatto così finché non è uscito. Nulla è stato spostato, aperto. Insomma, a parte le cose che ha spostato e aperto il tuo amico, ok, bello quelle parole, amico. Conoscendo, Cos'altro puoi notare? Ma nessuno di voi viene in mente che chiediamo aiuto per Vez, no? Noti appunto che diciamo lo spostamento principale viene causato da tutti questi gatti scheletrici che girano per la stanza, e quindi quello, cioè, ci sono le loro impronte un po' ovunque nella polvere e insomma. Quanti gatti sono? 7 mi sembra. Ah, quindi era uno solo. Sarà pessimo. Questa era pessima, scusate. Non è 7 vite. No, vite. Hai ragione. Vediamo, vabbè, dai, allora aspettiamo che si riprendano sti dormiglioni. Vabbè, io prima di scendere abbatto i gatti. Li uccidi, okay, e usi le code per fare una frusta. Ci sta, se vuoi una mano ti do una mano. Schiacciamo i gatti. Dai, ok. Se iniziativa qualcosa gatto, basta che li malmeniamo. Fammi vedere le statistiche dei gatti, se sono... Sono gatti scheletri supremi. Affrontabili. Gatti scheletri supremi, mannari, vampiro. Infernali. Sì, direi che hanno più 0 a colpire, fanno un danno tagliente. Grado sfida 0. Si sale allora. Beh, io ricordo dei conigli che hanno infastidito una volta. Cioè, quello gigante. Vediamo se vi fanno almeno un graffio. 20 naturale. Io ho consigliato a Giulio di uccidere i gatti e con le code farci un frustino. Si è sentito la cagata? Era figo. No, era figo. Fa un graffio a Race, un punto ferito. Tanto per cambiare. Era figo in realtà. Cosa vuoi? Cioè, se di fianco al cadavere praticamente di fare gatto no. Sì, me lo l'hai fatto con di gatto. Sì, sono 9 gatti, 9 code. Ah, allora sai cosa potrebbe fare? No, quanti erano i gatti? 7. Ah. Oppure potrebbe staccare le lingue ai gatti, metterli in forno e mangiarle. Cioè, che cazzo vuol dire? Le lingue di gatto? Sì, sono scheletri. Non hanno la lingua. Però sì, sono scheletri, vero? Allora... Non hanno la lingua. Scheletro dopo avere la lingua adesso. Baciullate quelle 4 ossa. Ambulanti della stanza. Noti, Race, che non ci sono solo ossa di gatto, ma anche ossa umane. Oh. Scheletri, scheletri, scheletri. E... già mi hanno stuprato una volta. I gatti cosa saranno? Delle prove che ha fatto il ragazzo. Hanno messo i piedi, servitore. Quelli sono i bambolotti. Effettivamente tu non lo sai, ma perché tu non sei stato nella stanza della servitù in cui sta lui. Nella stanza della servitù ci sono 4 letti e voi avete, se prima o poi arrivo, io te l'ho detto, fai tu, conosciuto solo 2 servitori, ma questo se vi scambiate le informazioni magari lo potete sapere. Bene, cos'altro fate? Niente, trascino giù Vardistran e... toc, toc, toc. Sbatto un po' la testa tra i mobili. mi assicuro di chiudere le porte in modo che non possano essere aperte se non da noi, o forzandole in qualche modo. Ok. Non so. Mi metto delle cose in modo che uno non le possa aprire da dentro. La botola ha un chiavistello, quindi... ah, c'è la chiusa all'esterno, così metti che lui rientra, non può uscire da lì. Capito. Come ho chiuso le finestre, l'ho bloccato, le sprangate. Distruggere tutto. Eh? Leggevo il messaggio di Arci. Prima di dar fuoco a... tanto di dar fuoco. Devi scriverlo, potrebbe venire qui. Bene. E questo era il lattico. Poi del primo piano, Race, vuoi vedere qualche altra stanza? O qualcun altro di voi? Poi boh, smollo Ward a Irina e gli dico prenditi cura di lui finché non sei peggio. Oh mio Dio, cosa è successo? Niente, è inciampato. Cioè, lei ha appena detto, sei stronzo, eh? Sei un pezzo di merda. Cioè, ha appena ucciso Isa. È qui solo. Cosa? No, io non ho detto Isa, che sei tu. Io non ho detto che e se pensi lui? Io non ho detto che ho ucciso Isa. E se dovessi avere bisogno di qualcosa, di guarda, io ho detto che Isa. Oppure... No, io ho detto che Isa è morto e basta, non ho detto chi l'ha ucciso. Ho detto che non l'ho ucciso io. Uccidere. Oh no, povero Valdi. Sta posto così comunque. È l'unico che è stato gentile con me. E che non ci sarebbe mai, Isaac. Isaac. Bene. Mentre mettete a letto Vardistrand, sentite provenire dei rumori come se qualcuno stesse cercando di parlare con un bavaglio alla bocca, provenire dallo stanzino di fianco alla libreria. Ah sì, certo. Curatemi, curatemi. Nella libreria ci sono i cani. Lo stanzino di fianco alla libreria. Ah, si può accedere senza passare dai cani. Questo stanzino. Ok, andiamo allo stanzino. Ci sono anch'io. Lo stanzino è chiuso a chiave. Sfondo la porta. Ci sono anch'io. O... No, abbiamo le chiavi, no? Cioè, Race credo che abbia. Avevi finito quello che volevi fare. No, prima li raggiungi. Chiedo all'inserviente se ha qualcosa da mangiare, no? No. Ah, venite. No, per curare lui. Avete qualche erba, qualcosa per dargli una mano, per aiutarlo? Posso fargli la casa del pacco con delle erbe curative. La casa del barone non ha niente di più. Vabbè, faccia questo impacco. Se vuoi puoi metterti a cercare. E arrivate nella stanza M, che vi dicevo è chiusa a chiave, ma qualcuno di voi ha delle chiavi. Sì, io apri. Anzi, prima provo a scassinarla e poi l'apro con le chiavi. No, è un troppo facile. Ciao. Apri la porta e dentro praticamente c'è un uomo incatenato e pesantemente malmenato. Ammazziamo. Vestito soltanto di una casacca, un sacco praticamente, e una casacca. È legato con delle manette di ferro che hanno praticamente scavato dei tagli nei suoi polsi, causando il sangue che cola giù dalle sue mani. E sciogli a fare il gattolo le code che si la vecchia. Dove eri rimasto? No, questa è la casa del borgomastro. La nostra casa. Ah, ok. Io lo fermo quando erano tutti vivi. Beh, noi siamo ancora. Ah, no. Beh, lui arriverà con Coglione. Oh. Tu sei un Coglionovic. Sei un Coglionovic. Sono mezzo Coglionovic. Beh, niente, lui arriva con Coglionovic e si trova. La strage. Beh, che sorpresa, che ironia. Strage. Arriva il vostro amico druido insieme al vostro amico Colian. Allora, in pratica lui è da curare. Ma fin qua. No, vabbè, la situazione che vedi, cioè stai calmo, non è successo niente. Non ci è fatto male nessuno. E che questi dannati pavimenti sono così scivolosi che la gente cade. No, probabilmente vedi qualche cadavere di guardia all'ingresso e il cadavere di Izek. Chi mi ridava i soldi del pupazzino che ho fatto fare di Izek? Beh, puoi sempre usarlo. Quello che vedi, tu arrivi, ci sono dei cadaveri di guardie, tra cui Izek. Poi c'è anche il cadavere del barone e della moglie del barone. Tutti lì fuori. Vabbè, le guardie... So che sarete uccise voi. I civili so che sono stati uccisi da Giulio. Quelli del barone. No. Beh, il barone l'ha ucciso con Sal. Sì, è vero. Il barone non è civile. La moglie sì. La moglie è civile. Era abbastanza ovvio. In pratica abbiamo a lungo elaborato un piano. Siamo andati al palazzo del barone e abbiamo ucciso tutti. Sì, ci sta. Ci siamo rotti quel giorno. Sto aspettando, va bene. No, è andato bene. Comunque alla fine quindi le guardie sono andate a chiamare chi avevo detto chiamare. Le poche guardie... La situazione era com'è? Tutti quanti sanno di questa strage, quindi stanno arrivando tipo dei rinforzi da qualche parte, o al momento allora, nessuno in realtà noi sappiamo. Poche guardie. Cioè no, delle guardie sì, perché noi abbiamo, dopo abbiamo sono rimaste poche guardie che abbiamo convinto. Abbiamo agito come se noi fossimo i nuovi padroni. Esatto. Cioè noi siamo i nuovi padroni. Cioè in teoria le guardie adesso potrebbero stare con noi. In teoria sì. Lui in teoria un po' infatti ne ha convinte. Infatti è stata una delle guardie a venire a chiamarvi. Ok. E ora ero rimasto con Giulio che mi aveva detto di mandare a uccidere la vecchia. Sì, adesso stiamo esplorando la casa. Sì, abbiamo cambiato completamente piano, siamo andati a uccidere il barone, la moglie e le guardie. No, dopo dobbiamo uccidere. Ah, ok. Vabbè, sì, adesso sì, ormai per assicurarci la città. Certo. Per il momento stavamo cercando il baronetto perché di fatto è l'unico rimasto della famiglia. Ma una domanda, Vez, tu in tutto ciò rimani paladino buono, tutto regolare, no? Al momento solo svenuto. Al momento è a zero. Ma no, sei svenuto all'inizio. No, aspetta, no. Il mio paladino. No, allora, sei scivolato, l'ho detto, è svenuto, uccidiamo tutti. Aspetta. Cioè, c'è un limite a tutto. Il mio paladino si è rotto un po' i coglioni. Cioè, è andato da un... E siamo andati dalla vecchia e gli ho detto, vecchia, aiutaci a prendere la città, a togliere al barone. E no, prima voi farete il lavoro sporco e dopo una volta che avete fatto il mio lavoro io arriverò e prenderò la vittoria. E va bene. E poi siamo andati dagli elfi e abbiamo detto, elfi, visto che siete qua a non fare un cazzo, venite con noi ad aiutarci. E loro hanno detto, no, ora vuoi fare tutto il lavoro sporco. No, prima vogliono... che si sistemi la situazione del vino. Ora voi sistemerete tutto. Era un consiglio spassionato che aveva. Ora sistemerete tutto. Una volta che avete sistemato tutto e non avrete più bisogno del nostro aiuto, allora e solo allora ve lo daremo. Allora, dopo un po', il mio personaggio ha detto, vabbè, sapete che c'è, vaffanculo, andiamo a uccidere il barone. Andiamo a uccidere il barone. Andiamo a uccidere il barone. Ora, appena il mio personaggio tornerà in vita, uccideremo la vecchia e poi andremo a uccidere gli elfi. Io sono contrario a uccidere gli elfi, in realtà. E dopo che ci uccideremo gli elfi, uccideremo, esatto, uccideremo anche quegli altri. Vabbè, raga, però scusate, tutta... i mistani. Ah, ecco. E dopo i mistani cazzeremo tutta la gente di Vallachi. E una volta che non sarà rimasto nessuno, andremo a sistemare la cosa del vino. Così tanto sarà contento, eh. E sarà vino per nessuno, perché saranno tutti morti, ok? Tutto per noi. Affoghiamo tutti i mistani nel vino, scusami. Il vino è tornato, stronzi. L'abbiamo perso. Sì, non solo si è rotto il cazzo, ma ho perso la bronca sul personale. La guida morale del nostro gruppo è venuta meno. Sta rollando, però lo dobbiamo curare. Esattamente lo scopo, dai. Coglioni, però adesso gag a parte, bisognava sistemare la situazione. Sai, Barristan, cosa fai risvenuto lui? Pura ferita. Infatti spieghiamo cosa ma è successo. È terra per qualche motivo o per zero? No, sì, è appena preso una tronca. No, perché abbiamo cercato il figlio del barone, che quindi è l'unico della casa che a quanto rimasto. Pare è molto forte. E ci hanno detto che nella stanza da letto... Non l'aveva ammazzato? 16. No. E ti vedi ammazzato lanciando giù dalle mani? Cioè, non voleva. Noi pensavamo fosse un bamboccio che c'era stanzato lì. Ci hanno detto che lì c'è una botola per accedere su e qui c'è il ragazzino. Siamo arrivati... Sono... Io ero giù che scopavo. Ragazzi, avete staminato un'altra città e prendete da un sedicenne, però. No, non l'abbiamo trovato. Loro, perché io ero giù che scopavo con la cameriera, ma questo non da stare. E sono andati. Lasciamo fare le cose utili, no? Esatto. Sono andati qui. C'è una porta, ha detto il master. Attenzione, non ha detto c'è una porta chiusa, ha detto c'è una porta. Lui provo a sfondare. Con un teschio sopra. Con un teschio inciso sopra. Lui, senza neanche pensare, la sfondo. Non c'è riuscito. È rimbalzato. In pratica, allora no, allora lui fa. Vabbè, io la apro. È nato lì, l'ha aperto e il era teschio si è illuminato, era tipo simbolo. Beh, però poteva dare un'idea, eh. C'era un cuore. Oh, vabbè, dai, era un bambinetto. Sto qua. Mi mettono anche tipo su alcune armadi. E poi siamo entrati e c'erano tipo degli scheletri di gatto rianimati. Sì, poi c'erano degli iscritti e dice: Cata fa, Giulio, che ti rendi conto che questo tipo di giro capisce un cazzo e sta sbagliando tutto degli incantesimi. Ma ovviamente invece molto. L'incantesimo che ti faceva 40 danni a botta sulla porta, invece sono grandista, bravissimo, sì, a fare. Raga, io ho trovato il libro degli incantesimi. Gli incantesimi, quello c'è. Con tutta una serie di incantesimi. Come hai capito bene, è rimasto tutto uguale, Bez si lamenta allo stesso modo, non hai capito niente. E alla fine c'erano degli appunti che in pratica questo ragazzino stava cercando di fare un cerchio di teletrasporto, ma non aveva Probabilmente completato. Beh, però tu hai intuito, te l'ha detto lui, che forse beh, raga, tutto fatto, è iniziato con una violenza su un bambino in uno sgabuzzino e finirà con la stessa cosa. A proposito, no? Appunto, aprite questo sgabuzzino. Sì, lo poi mentre eravamo in giro, sentiamo nello stanzino accanto alla biblioteca, quindi E nella biblioteca ci sono fastidio, nella biblioteca ci sono due cani, se li vuoi ammaestrare, perché sennò non li ammaestriamo. Allora, lo stanzetto cos'è, la M? Quindi questa qua, sì. Cioè qui sentiamo come se 6PF, scusami. Qui parliamo come se, cioè sentiamo come se qualcuno parlasse col bavaglio. Ma noi siamo a questo piano o a questo piano qua? Eravamo in giro. Adesso siamo qua. Adesso siamo tutti riuniti, diciamo, in questo piano. Okay. E i cani qui, dove sono? Qui dentro la biblioteca, chiusi dentro. Qui si sente tipo che non è Vez che dice curami, come dice lui, ma. Io ce l'ho il babbuino, ovviamente, però. Allora, aspetta, io sono Darci ora. Ok. Baristan, tutto bene? Cosa ci fai qua? Finalmente sei tornato. Sono riuscito a salvare l'unico che era a terra di questa strada. Non sono gli altri. Credo stiamo continuando a stuprare e uccidere civili, no? Tutto normale. Molto bene. A proposito di civili, stanno seguendo gli ordini quando parla Baristan. L'uomo del sgabuzzino si chiama Udo. Ah sì, è dentro c'è Udo. Oh, Udovico. Udo Lukovic. Come si chiama? Catabrigovic. Udo Lukovic. Catabrigovic. Sì. Io vi faccio un Leo Lens di 20 PF. Faccio pure. Sei a 26. Gli altri stiamo mediamente. Io sono bene. Full. C'è qualcuno? Boh, io ho 15. Io sono full. Boh, l'ultimo. Tu sei a 36. Ok, va bene. Io sono messo un po' una merda, va bene. Sì. Modalità, vabbè, tanto siamo davanti a uno in catena. So, io ho sognato 16. Oh, salutiamo Giulio Bosi che sta guardando la trasmissione. Grazie, Giulio. Ciao Giulione. Ciao. Che ore sono nella giornata? Notte fonda. Vabbè, allora dopo dormo, quindi dormo, spammo le cure. Chi è che ha bisogno? Lui prima direi, cioè lui, non so, Salla. Faccio 9 PF a Giulio. Giulio, quanti punti negativi avevi? 4 Salla. Io avevo 6. Oh, dai a 5 e ne passi uno a Darci. Contratto un po' di AIDS. Anche da lui. Lei non ce l'ha mai curato, lo stronzo. Anche da te. Mi ero scordato di un po' di AIDS. Da tutti. Sono l'unico sano della compagnia in questo no, momento. No, vabbè, al primo che mi accorgo. Ma quindi anche da me. Bravo, vabbè, certo. Che bello amico. Ma quindi anche da me aveva preso. Ah, niente che ti accorgi, sì, che non ti curano. E quindi io recupero un punto per Ita. Sì, sì. Quindi sono l'unico senza malattie. Uno da Vez e uno da me. Anche l'altro ce li ha. Sì, ne sono l'unico senza. Sì. Non lo so, perché uno l'ho recuperato io da lui. Cioè, una volta ce li passiamo tra di voi sostanzialmente. Sì. Basta scaricarli su un'altra persona. Cioè, quindi basta curare qualcuno. Sì, adesso sì. Basta. Io li curo, li prendo negativi. Se curi noi, ma se curi una persona che non li ha, li trasferisci a lui. Curo scemo. Parlo di quello che no. No, non puoi farlo così di tua spontanea volontà. No, non puoi. Non puoi parlare di ma non puoi. Ma non puoi farlo apposta per darmi. No, posso parlare. Io voglio curare 12 PF. Anche io voglio curare scemo. Me recupero PF. No, va bene. Cura. Come no? Non aveva delle ferite da curare. Come no? Eri full? No, no, ce l'ha. Aveva delle ferite. Amico mio, guarisci. Vecchio deve essere consapevole. Quindi siamo tutti con la faccia da vecchio adesso. Sì, abbiamo tutti la faccia invecchiata. Tutti molto più canuti. Quindi il mio massimale è 37. Il mio massimale è... Ma quanti? Uno alla volta. Sì. No, io credo più che il mio massimale è 51. Giusto. Funziona così. Sì, eri a 52. Okay. Ma secondo me per le cure non devi essere consapevole. Cioè devi essere... Credo si sia sottinteso. Vabbè, ma mi lascio curare. Non è che no, non curarmi, che se ne vecchio. Non faccio così, mi lascio curare. Beh, scusa, comunque adesso abbiamo guardie, servitù. Cioè, possiamo spammare. Beh, lascialo lì di fianco con. Vabbè, basta. Era così il povero Udo vi stava raccontando la sua triste storia. Ecco chi è da curare. È stato arrestato durante il festival delle teste di lupo perché portava un cartello che suggeriva che i vallacchiani dovevano dare il barone in pasto ai lupi. Allora io come sottofondo, visto che ce l'ho, faccio suonare il carry on con i lupi che rincorrono i bimbi. Che crea l'atmosfera. Come si chiama quella ferita in inglese? Il cure. È ammanettato e le manette hanno un lucchetto. Non volevo. Avrà le chiavi, no? Taglio le aspetta, aspetta a liberarlo, non sappiamo chi sia. Perché? È un vecchio ferito. Ma noi siamo i suoi nuovi prigionieri. Cioè, i prigioni. Taglio le gambe e lo libero. No, non hai comunque tirato. Cosa? Cosa ha detto? Ma ti taglio le gambe e lo libero, ha detto. Perché ha troppe mani. Taglio le gambe. E quando se lo liberate esprime il desiderio di ritornare a casa sua dopo tanto tempo. Chi sei? Appena raccontato la sua storia. Qual è casa tua? Udo Lukovic abita in via Fasulla 123. Ma ci sono anche io. Via Fasulla 123 mi sembra un nome un po' fasullo. Falso. Ci sono anch'io. Sì. Arrivi mentre sta raccontando la sua triste storia di come è stato malmenato. Era rinchiuso in quello sgabuzzino. Ma sembra grosso questo, cioè. È un normale cittadino che esprimeva. Cittadino! Cosa vuole essere curato? Aspetta, Lukovic. Cittadino. Sì, ha i polsi scarnificati e sanguinanti per via delle manette. Oh, se solo potessi curarti. I cuori su Shion ci sono appena curato tutto da solo. È finita. No, però medicina 1, 2, 3, 4 su di lui per recuperare i PS persi. Ah, ne hai fatti 2 su di lui? Sì, però aspetta, no, aspetta. Se mi cura la seconda volta se lo riprende. Dipende come mi gira, per adesso. Hai sempre fatto così. È vero, la seconda volta lui trasferisce il suo ultimo a lui o lui ribecca? No, resta così, perché sono in pareggio. Mi sembra ecco. 10. Medicina 10. Lenisci le sue abrasioni e i suoi tagli. Anch'io gli faccio il trucchetto. C'è un trucchetto in culo. Grazie signora, lei è molto buono. No, perché purtroppo mi sono già curato tutto io da solo. Sugli taglio delle mani? No, scusa. Una deformazione professionale. Lukovic. Basta che alzate le matita. Mi hanno mandato messaggi tra le persone che ho detto che mi sono perso. Quindi me li hai dati tutti e due? No, no. Uno e uno. Per cosa, signora? No, era perché, che volevo dire? Volevo dire, ma conosci il figlio del barone? Mi hai curato te? Quel ragazzetto, l'avrò visto se no una o due volte. Non è una persona molto riservata e dicono che non corra buon sangue tra di lui e i suoi genitori. E tu mentre eri in prigione qua non hai visto niente? Sono stato chiuso in questo sgabuzzino buio, non ho visto la luce per giorni e giorni. Ma che cosa fai tu nella vita? Cioè, è un calzolaio. Perfetto, mi serve. Lukovic, avremo bisogno. E tu conosci altri che sono oppositori del barone? Sono uno dei capi. L'organizzatore di uno circolo letterario dove ci troviamo. Trovavamo sì, puntualmente per leggere dei... Sì, perché se lo liberiamo va da lei. Di Lady Vactor. Ah, la conoscete, la nostra magnifica... Sbagliato! Signora. Oh no, però potrebbe essere utile. Sì, avete già liberato. Chiama... Le mani, è lì, è circondato. Io faccio così. Potevo lasciarlo. Faccio proprio il sorriso, tipo... Perfetto. Un paladino buono. Ma questo è perfettissimo. No, potremmo usarlo come esca. Oh, ma io volevo usare come volevo dire straccio, possiamo convincerlo a tradire le diva. Attiriamo le diva. Devo sapere che abbiamo preso un accordo. Che siamo così messi male che per uccidere una vecchia dobbiamo fare le trappole. Devi sapere che abbiamo preso un accordo con le diva. Tu avresti la possibilità di portarla qua. Io non sono così in buoni rapporti con lei. Ogni tanto sono stato invitato a casa perché sua. Perché stiamo ricominciando a fare piani? Quando succede? Sì, esatto, io la presenza di Arch. Lo uccidi? No, aspetta. Aspettate. No, beh, non è che perché sei morto torni buono. Cioè, lo ammazzo io, dai. No, io. Stiamo discutendo un attimo. No, non penso. Cioè, puzza di... E non conosci nessuno, un po' più... Cioè, avremmo bisogno che lei venisse qua, perché adesso, senza cioè, farsi notare il discorso è che... Adesso se lui... guarda fuori dalla finestra, penso che stia dormendo. Però è un momento importante, in realtà perché abbiamo appena ucciso il barone. Vez, pensa un attimo, se lui tutto malmenato va in piena notte da lei a dire «Ehi, vieni con me!» Cioè, mi ha liberato, i miei liberatori, i miei salvatori vogliono vedere. Signora, vorrei andare a casa, mi manca la mia famiglia. Cittadino, fai l'ultimo dovere. Cittadino, sii felice. Persuasion, basta. No, non voglio più essere felice. Basta sorrisi. Basta. Ma il barone è morto. Mi intimidisci. No, persuasion, c'è direi possiamo intimidirlo. Per quanto tempo ho aspettato questo momento? Aspetta, provo a convincerlo. Ora voglio solo vedere la mia famiglia. Provo a convincerlo che per potersi godere la famiglia. Fai un favore ai tuoi liberatori. Potersi godere la famiglia. E ai liberatori di questa città. In pace, la città deve assolutamente trovare un governo stabile adesso. Quindi Lady Vactor deve venire qua assolutamente e prendere in carica. Così lui potrà andare a casa e riposare, perché se no domani rischiamo la guerra civile. E ne faremo, e ne saremo presenti della nostra nuova repubblica. Daremo noi 20. 15 più 5, 20. Sì. Ma deve essere prima, massimo riservo. Massimo. Il bene comune prima di tutto. Massimo. Che ironia. Il paladino buono sta progettando la trappola per ammazzare. Massimo riservo. E porta queste armi ad affidare cosa? Calzolaio. Un fabbro. Va bene, signore, farò come dice lei. Dopo tutto ci avete liberato da questa tirannia della vita. Ah no, del barone. Crudele e liberticida. Vai, ora la divatta viene qua e la ammazzare dal barone. Lui va. Il baronetto sappiamo dov'è. Tanta roba, la spariamo. Io vedo i cani, la chiediamo così nella libreria. Per chiedere così del baronetto. Entro. Il baronetto potrebbe essere morto perché ha sbagliato il teletrasporto. Ma lei che ha la magia ci aiuta a trovare. I cani ti guardano in cagnesco. io vado a prendere l'armatura al barone. Sì. Gli dico, ora Frank ti faccio assistere a come si ammaestrano due cani. Frank è la scimmia. Ma ti stavo dicendo che ti sto parlando. Ha cambiato nome 40 volte. Intanto dimmi che cosa hai in mente di fare. No, beh, guarda Frank come si ammaestrano due cani. Beh, io si potrebbe diventare un cane e parlare in cane. Oppure diventare un orso. Parlare d'orso. Se divento un cane, ho delle bazze a provare a convincerli a essere i miei fedeli. Aspetta, ma c'è l'incantesimo parlare agli animali, semplicemente? Fai quello e stai a posto. Non ho scelto per... Adesso devo sprecare un incantesimo per due bastini che potrebbe uccidere con una zappata. E cosa vuoi fare? Si usa ancora destra gli animali, no? Gli do da mangiare la scimmia. No, scherzo. Guarda, Frank. No, tiro fuori delle mie porzioni di cibo che so che posso essere, che posso dare agli animali. Quelle avere. Quelle che non hanno il cioccolato. Barretti di cioccolato. La droga, quella. No. La droga fatta con i bambini. Tra l'altro, io mi sto prendendo dall'inizio dell'avventura. O se no, possiamo fare in modalità Ramsey che gli butto dentro il tizio. Le paste di droga mezzo smangiucchiate. Vabbè. Prova a dargli da mangiare le mie pasteggi con noi. Se lo accetta, addestrarli. No, ma il cibo glielo lancio da lontano. Intanto, ho capito. Magari addestrare animali con vantaggi. Ah, ok. Un vantaggio. Da prevedere se sono affamati, capito? Tiro solo normalmente. No, tiro normalmente. E vedere la tua abilità anche nel dare da mangiare. 22. Non mangiano. Ci ha centrato la bocca. No, accettano. No. Accettano un tiro per la mira. Non è automatico che ti riconoscano come padrone. Okay. Non padrone. E mentre mangio provo ad accarezzarli. Va bene, accettano le tue carezze. Nel libro non è automatico, però. Cominciano ad annusarti. Accettano accettano la tua puzza. Accettano la tua puzza. No, non farlo. Non ti considerano una presenza ostile. Prova a liberarne uno. In che senso? Fagli il collare. Combattere... Cioè, adesso non sono attaccati. Ah, non sono. Ah, sono liberi. No, sono liberi. Ah, hanno chiuso la stanza. Ah, ok. Allora provo. Mi salire in groppa. Provo a vedere, salutandomi dalla stanza e chiamandoli. Vengono il centro del recupero con le cose. Riposo lungo. Li sappiamo per curiosità i nomi, magari per sentito dire per sbaglio. Puoi chiedere all'inserviente. Do io i nomi. Mastino 1 e Mastino 2. Puoi chiedere all'inserviente. No, c'è scritto Mastino 1 e Mastino 2. Adesso li No, capito, se li inventa il mastro, capito. Vabbè, si chiamo Rick e Morty. Ok. Te avvicini, Piero. Quindi tu esci dalla stanza. No, mi avvicino piano verso l'uscita. E poi girando in per dire: regà, seguitemi. Rick, morti. Mi ha paura di essere animale. 17. Sì, magari gli do anche altro cibo, se hanno fame. Vengono dietro di te. Bravi, Rick e morti. Wow. Va bene. Ora qua c'è tanta carne per voi. E gli indico il barone. Vedono il barone e... cazzo, però padrone. No, non è il barone. Rendo riconoscibile. Ma l'ottima carne macinata. Il loro odore e vanno dal cadavere. E sono lì che pigolano e fanno... Cai. E piangono il loro povero. Aspetta, io posso barone fare... Io devo frugare, cioè io devo prendere una cosa al barone, poi spostare i cani. No, tu hai preso mentre faceva l'addestramento. Quindi io adesso ho una... Off plate. Dimmi, Vardistra. No, stavo pensando di fare un Divine Sense. Chi vuole una chime che ho in più adesso? Mi sa che non posso prendere. No, se non già. E niente, in tutto ciò il bravo Koglionovic è... Cioè, c'è una guardia lì? Di... No. Come no? Lì? No, siete al piano di sopra. Cioè, se siete tutti insieme. No, dove io sono siete sceso. Voi? Sono sceso perché il barone è stato buttato giù dalla finestra. Eh sì, è fuori il barone. Non era al piano di sopra? No, dopo è stato buttato giù. Ah, ok. Ah, ovvio che vedono i cani, mi passa. Sì. Pensavo fosse ancora al piano di sopra. No, è stato buttato no, giù. No, sono stati tutti buttati giù. Un certo punto. Sì, è vero. È caduto. Parola esatta, è caduto. È caduto letteralmente. Purtroppo il barone si è addormentato. Barone si è era lì sulla finestra. Oddio, attaccati. C'è qualche guardia lì al piano terra. E si è addormentato perché gli ha fatto suono. Sì, no, questa scena me l'ha raccontata. Vedete le guardie che avete chiamato che stanno tornando. E camminando un po' barcollanti. I cani cominciano a ringhiare. Credo vino, ok, no, qui c'è qualcosa che non fa. Il perception perché morti cominciano. Beh, a io intanto però ho l'half plate. Tu hai l'half plate. Quella è la cosa importante. Perception mio dei cani. Tu che cani. Beh, 10 comunque. Quanto è l'half plate? Lui è dentro. Pure. Lui pure. Io rientro quando vedo avvicinarsi. Ok, ma io sono mica sono uscito. Sì, perché ti ho detto io che i cani sono andati dal. Hanno sentito l'odore del padrone e sono andati ad annusarlo. Hanno visto che è mai uscito, ma anche nel caso rientro, anche ci barichiamo dentro prima di capire le intenzioni delle guardie. Sì, ma sono le guardie le vedete arrivare. Marcolando, che sembrano ubriachi. Guardano fissi davanti a loro come se fossero. Non dico degli zombie, però ammagliati. Ok. E in poco tempo intorno alla casa cominciate a vedere tanti piccoli luccichii come tanti piccoli occhi di piccoli riposati animali che tipo il baronetto è il boss finale della campagna. Sì, a meno che non sia Lady Vacta. E i cani dopo smettono di ringhiare e con la coda tra le gambe ritornano velocemente dentro il casa. Il tizio che abbiamo interrogato è ancora lì? No, è andato lui. No, è andato. È già andato? È già andato. Cronologicamente è già andato lì. Che cani di merda. Beh, no, ma subito così. Le guardie si mettono davanti all'uscio, a due, e guardano fisse davanti a loro con... E abbiamo chiuso la porta. Bocca un po' aperta. Sì, sì. Le guardie. Ma cos'è? Le progenie, basta. No, sono tipo ammaliati. Regà, non possono entrare le reliquie. Poi non possono entrare se non li invitano. Sono un progenie. Le Galaxy si invita sempre. Dalle tenebre spunta sì, ma avrei comunque invitato una figura no, finemente vestita, molto elegante, ecco, che avete già visto. Prima della palesarsi della sua presenza, sentite il rumore Uno è Strad. Però non ho il pupazzetto suo, cazzo! Strad. Signor Strad! Signor Strad! Signor Strad, la città è sua! Ah, vabbè, vabbè. Cioè, se, potremmo farlo. Se, se vedo Strada, apro la porta. Tanto non abbiamo. Cioè, nel senso, se vuole entrare, entra. Però ce l'ho, ma ho paura di andare fuori. Buonanotte, miei cari ospiti. Che piacere rivedervi. Lord Strada, che strana coincidenza. Ah, Lord Strada, veramente? È lui, in carne ed ossa. Ci sta. Abbiamo preso la città per darla a lui. Cioè, dobbiamo farlo. Io devo confessare, all'inizio avevo qualche dubbio sulle vostre capacità, ma li avete fatto. Siamo bravi, cazzo, eh! Mi scusi, non vedo il vino, senza vino non si entra in città. Lui ha un calice di vino in mano. Però è un vino molto scuro. E denso. E denso. E ricco di ferro. Esatto. No, lui è qui per ridere, però. Siete andati più in là delle mie più rose aspettative. Anche delle mie. Per me può prendersi. Sì, in effetti, che cazzo ci frega la serie? Ah, c'è anche Koljonovic. Esatto. Che è in vista o è nascosto? Sai, immagino se è nascosto. Arrivano Koljonovic e Irina. Ah, la porta. Cioè, proprio degli dentro, sfigati. Dove vive dentro. Era dentro insieme a Koljonovic. Vengono a farsi vedere da Strad. Lo sanno che è arrivato Strad. Ma ho appena detto buonanotte Lord Strad. Ma non, loro sono dietro, non ti hanno sentito. Forse non sono buonanotte Lord. No. Cioè, fermi. Dov'è? Fermo, cazzo. Se vedo che stanno arrivando alla cioè, noi siamo dentro comunque. Noi siamo andati tutti dentro. Dov'è? L'ingresso è qua, no? Dove siamo dentro? Io ero al piano terra e sono rientrato. Vengono aperte le porte. E qua, dalle guardie che entrano. Arrivano le porte. Fa il culo. E il... Quelli che avete lasciato vivi. Mentre queste vengono aperte, stavano scendendo con Koljonovic e Irina ancora affranta. Mentre stava cercando di consolarla, e il caro conte, appunto, vi fa i complimenti. Perché Koljonovic ha sempre un tempismo di merda, fa sempre le cose sbagliate. Porca vacca, per le vostre gesta siete stati encomiabili. Vabbè, a questo punto, io mi accorgo di Irina, che cioè, nel senso, è ovvio che Strad li veda. O Strad è fuori, no, Strad è fuori. Potrebbe non averli visti, per quello dico. Oppure potrebbe non far vedere che lui sa che ci sono. Ho capito, ma però non può averli visti attraverso il muro. Magari sa che ci sono. Secondo me sa che ci sono qui per questo. Ma non ponetevi questi problemi. Vi stanno facendo dei complimenti una volta tanto. No, infatti. Ma noi evitiamo entrare. Vabbè, so. Questa è la sua città del resto. No, questa è la nostra città in questo momento. Bisognerebbe fare un segno e ridere. Per quello dico. Non so, io se la vediamo arrivare. Io sono praticamente sull'uscio che parlo con Strand. Sì. E voi siete lì dietro. Vabbè, chi ha qualche passo indietro, se vede arrivare Irina, gli facendo. Esatto, io vorrei fare il tuo. Se la vede arrivare. Ma vabbè, non lo so. Capito, ce l'ho di fianco che sta arrivando, gli faccio segno di. Vabbè, siamo rimasti. Lord Strad. Avete fatto per me molto più di quello che io vi potevo chiedere. Sono veramente grato delle vostre prestazioni. Veramente devo ancora uccidere la vecchia, gli zingari, gli elfi, siamo un po' indietro. volevo dire buonanotte signor Strad. Hai dimenticato di dire Lord no, meglio non dire. Signor Pack, la sua devozione è sempre ammirevole e infatti le è valsa un premio considerevole per la sua lealtà, riferendosi ovviamente a quando hai rubato 2 punti di forza a lui. È vero, ma anche tu Atanas, nonostante il tuo iniziale errore ti sei prontamente rimesso sulla retta via. Sei fa quel che si può. Molto bene. Adesso lui ha Giuliano ha divisa con scritto Strad. Adesso sei più grande. Molto spigoloso. Anzi, signor Strad. In te vedo un grande potenziale e sono sempre felice. Non che fa veramente il colloquio tra Darth Vader. Io mi immagino il suo personaggio sta veramente facendo così. Falso e ipocrita comunque. Vardistran. Che gloria, probabilmente... la veramente malvagio della compagnia. Probabilmente il tuo cammino è iniziato molto lontano, ma è proprio per questo che stai facendo più strada di tutti gli altri. Perché hai dei compagni di un certo livello anche. Alcune strade sono strade, sono misteriose. Ben detto. Ah, Garrosh, il mio prode e forte... Beh. Uomo delle foreste. Uomo delle foreste. Bestia delle foreste. Nano delle montagne. Però va bene anche uomo delle foreste. No, bestia delle montagne. Non devi più considerarti come un nano delle foreste. Una mucca. Come una di questi esseri così piatti e civilizzati. Tu dentro hai qualcosa di molto grande. Che vuole uscire fuori. Chiedi alla cameriera. Esatto. Sì, ma ha detto che è dentro di te. Ah, quindi vai pure in bagno e libera. E tu, Race, tu che sei sempre alla ricerca di qualcosa. Straccione. Comunque, perché Bardo non viene mai beccato. Chissà dove. Bardo non c'è mai. Io... Io potrei finalmente darti quello che tu stai cercando. Potrei dare quello che state cercando a tutti voi. Eh no, già il cap diventi in costituzione. Guarda, no, però con gli oggetti lo puoi superare. Sì. Oppure se sei un barbaro di livello alto. Ai suoi urti. Bravo, questo lo spiego. Vabbè, l'avevamo già capito comunque. E zitto, non capisco perché non facciamo tutti così. Ma in effetti ormai la campagna va così. Porteremo ordine su terra, signore. Oh, non vi preoccupate, in quello ho già i miei uomini. Sì, ma noi quanto siamo più efficienti? Infatti, se avete dimostrato una grande competenza. E controllabile, vorrei. Sarei molto desideroso di ricompensarvi per i vostri servigi. E infatti vi avevo pure invitato a cena da me. Vedi che dovevamo andarci? Io l'ho detto dall'inizio, però. Ma capisco che appunto le varie vicissitudini. Anche il paladino era ancora in quella fase buona. Eravamo ancora nel pre-strada. Dai, almeno un'ape. Lo facciamo con strada, dai. La quale occasione migliore del mio matrimonio per celebrare insieme questa ritrova. Ma infatti, con chi si sposerà? Non so. Signor Strad. La tua umorismo, Pat, è sempre umorismo, ma certo. Spara Irina. D'altronde avete fatto tutta questa fatica per ritrovare Irina per me. Esattamente. Mi sembra più che giusto aiutarvi. Ora non ci siamo riusciti. Vero Rick Morty, chissà che c'è da sbranare in quello sgabuzzino. Non lo farei. L'ultima volta che hanno ucciso una promessa di strada, non è fatta bene. Rick e Morty sono fuggiti con la coda in preda. Ah, in casa, sono entrati in casa e sono andati a rintanare da qualche parte. Frank, questo doppio amico. Vediamo Irina. Noi dentro eri più o meno nascosta, ma è lì accanto a noi. Come reagisce a queste parole? Immobile, petrificata. Cioè, perfetto, è il momento di prenderla e portarla fuori. Basta, semplicemente. Vabbè, lui sa che c'è, è inutile, cioè, ormai. Appunto, è inutile nasconderla. Ah, portarla fuori la strada. Certo. Rischiamo di farla figurata. Vabbè, ma invitiamolo in casa a questo punto. Cioè, cosa sì? Beh, cosa... Beh, adesso... Ma comunque se facciamo. Adesso ce l'hai con i cattivi. Hai passato... Cosa ha Strad, che è più cattivo di te? Senti che cosa dici? Hai passato il Rubicone, Vez. Veramente. Oh. Sentiamo come finisce il discorso. Vabbè, scusami. Matrimonio, insomma, mi sembra giusto ricompensarvi delle vostre fatiche. Abbiamo anche un vestito da sposa qua, se serve. Magari vuole nuovo, però. Ah, scusa, ok. E... cioè, un signore in una certa classe. Sì, sì. Vi chiedo gentilmente di consegnarmi Rin affinché possa congiungermi con lei e finalmente. Ok, tutti li fermo con il Gronovic. Allora, fuori dal gioco, noi possiamo invitarlo a entrare. No. E lui si prende Irina, oppure non invitarlo, però lui lanciare non è, fuori lui, lancia, lui non può entrare in casa. Lancia dalla finestra Irina. No, no, le scelte sono o porce Strad o dalle Irina. Però l'idea è questa, quanta gente c'è in casa viva, a parte noi? E i due, due servitori. E no, è adesso, onestamente, e la nostra barra dell'expa che punto è? Aspetta, è al 99%. No, ammazziamo i servitori, livelliamo e combattiamo Strad. No, istinto di che ci fa il culo, no, comunque. Cioè, non è livellato. Un attimo in bagno, sì, sì. Adesso io parlo per il mio personaggio, ma penso per quello di altri anche. Perché mi siamo comportati finora, brava Irina, ma. Come si è ancora nel film, cioè, no, in realtà fino alla campagna questa è salvarla, sì, cioè, sì, sì, però in questo momento so che tu hai partecipato a due sessioni in cui abbiamo fatto delle stragi, esatto, però allora, fino adesso comunque l'abbiamo protetta Irina, poi io ad esempio ho sviluppato pian piano l'abbiamo una certa protetta, irritazione l'unico con da cui eravamo convinti di proteggerla, sì, era dai, suo è assurdo, aspetta, cioè, l'unico da cui eravamo convinti di proteggerla era suo fratello. Beh, era pazzo, però non l'abbiamo protetta da chi? No, l'abbiamo protetta da Strada, non, Strada, perché noi l'abbiamo, sì, dal giorno 1. Poi ci siamo portati dietro, ma tutto quello che poi abbiamo fatto dopo non era in teoria Strada. Noi adesso stiamo andando al tempio per, sì, adesso in teoria stiamo cospirando contro Strada, perché abbiamo preso accordi in questo momento contro Strada, abbiamo preso accordi con gli elfi, noi possiamo anche continuare a cospirare contro Strada anche dopo. Non possiamo consegnargli Irina. Il punto è che continuare a fare il doppio gioco, o gli consegniamo Irina adesso. Dobbiamo trovare un escamotage per non consegnare. Ma lui, allora, lui sa che è lì dentro, e questo è chiaro. Ok. Sì, perché noi possiamo anche consegnargliela, lui, ma può in teoria, anche liberarla. Ma lui in teoria può entrare se non lo invitiamo, no? Non lo so, perché di fatto non è casa nostra, di fatto. Ci penso io, raga. È tutto sotto controllo, come con riguardo l'ultima volta. No, perché, perché anche se non lo invitiamo a entrare, lui non può entrare, comunque manda dentro le guardie. Però noi abbiamo mandato il mezzo morto a chiamare la signora Lord Vacca. Sì, ma lei è Vittoria, è da parte di lei, è da parte Strada. Cioè non lo vede da secoli, ma la sua famiglia. Sì. Potremmo, cioè, se no, rifiutarci e provare a combattere dentro le guardie. Se lui non può entrare, abbiamo questo vantaggio. Tu? Sì, prima o poi noi dovremmo uscire. Però. Esatto. E siamo morti, usciamo. Aspetta, prima o poi dobbiamo uscire, prima o poi arriva il sole. Non sì, ma nella serie gettiamo la maschera, Strad sa che noi vogliamo ucciderlo. O comunque ci teniamo. È facilissimo, ci penso io. Non tu invece di dargli no, onestamente al mio personaggio a questo punto non cambia un cazzo. Cioè potremmo dargli, frega niente. Nel senso. Però potremmo dargli Irina e poi comunque continuare a cucinare. Cioè, di lui, nel senso, l'obiettivo del mio personaggio alla fine è uccidere Strad dopo quello che ha imparato. Però Irina è indifferente. Cioè, quindi allora, se per prendere tempo per uccidere Strad dobbiamo dargli Irina, nessun problema. Io a Strad gli dico. Perché Irina è malata, dopo è infettiva. È meglio se Strad non la vede. Cazzo di bambino. Strad... ok. Cosa? Questo è il tuo, ci penso allora, io. Guarda, a Strad gli dico... Ma... mio figlio al prodigo Conte Strad mi dica, non è presente cavaliere a questo punto, visto che non possiamo fisicamente stare tutti lì sull'uscio, si sa che porta sfortuna a vedere la sposa. Io esco di lato, esco di lato alla porta, fuori. Noti che intorno alla casa ci sono un sacco di ti puoi camuffare da Irina. Lasci che. Però non lo farei, ecco. Lasci che la portiamo noi al suo castello mentre lei prepara. Fa tutti i preparativi per il matrimonio. Ma quanti topi che ci sono qua intorno? Ma tu non sei fuori. Il suo aiuto sarà importante per sistemare qui la situazione a Vallacchi. E poi giungeremo in pompa magna al castello proprio. Oh, della situazione non vi preoccupate. Ho già un'amica in città con cui ho qualche accordo politico. Con la Vacta di Lord Vacca? Di Lady Vacca? Sì, aveva un nome un po' diverso, ma probabilmente la sua pronuncia è il druido. confondo gli animali con le persone. Però dei miei emissari la contatteranno per tenere la situazione sotto controllo. Si sa che i cambiamenti politici, se non gestiti, possono portare a spiacevoli inconvenienti. Ma torniamo a noi, nobile Vardistran. Lei cosa parli? Va bene, prova a persuaderlo. È il momento di usare la mia inspiration. Anche io gli do un'inspiration. Yeah. Hai un D8 in più, Mets. Grazie a quelli dallo da bardo che ho fatto prima. Venti. Schifo, Mets. Ne ho al massimo da fare 25. Vabbè, lui aveva un bonus esagerato, però gli faccio 20 con questo. L'ultimo tentativo disperato. Però dovremmo escogitare un altro piano, un'altra quest, allora. Tu riabbia di nuovo lo spirito. Attenzione, attenzione. Oddio, oh mio Dio! Bene. Mentre lo fai, lo guardi negli occhi. Fammi un tiro a salvezza sulla saggezza. Ho fatto anche inspiration! Appunto, per farlo gli devi parlare. 19 più cosa lui spera? Aspetta, ma il suo personaggio... Tiro salvezza sulla saggezza. Ma il suo personaggio è timido, non guarda Venturo. Negli occhi. Venturo. Non è scritto da nessuna parte che è timido. Beh, sì, ha tutti i suoi tic, le paure, ansie varie. È complessato, quindi... non è timido. Vabbè, Robert, sono un po' perso. Però scusami. No, non è timido, il mio ha c'ha tipo i rituadini. Vabbè, in quel momento dai, sei. È vero, un po' che non li faccio, bravo. Va bene. Venturo. Vittore, grande per loro. Come volete. Vi aspetterò impaziente. Nella non mia esserci magione. Riuscito, non vuoi esserci riuscito, non ci crede nessuno. Vabbè, ci verrebbe. Troverete una carrozza nuova di zecca. Ecco, un'altra. Come ho detto la prima volta, è stato un misunderstanding per colpa di Koljonovic che. Mi raccomando, riportatemela come nuova. Guardi, come nessuno nuova. Potrà scoprire niente alla carrozza senza che i miei occhi lo vedano e lo riporti. Beh, lui abbiamo preso mi tempo. Fido possiamo... Mi affido a lei, signor Byrne. E il signor Pat. Ci sei riuscito? Anche lui confonde i nomi. Agile. Mi aspetto quindi il vostro arrivo per direi. Domani a mezzogiorno. Non vi preoccupate. Tra 10 ore, tipo. Gran persuasion, signor Bass. Ha dato la carrozza. Come a mezzogiorno? A parte che domani a mezzogiorno non ci arriviamo neanche in carrozza. Sì, ci è arrivato. Sì, con la sua carrozza di cavalli pompati. Cioè, vorrebbe dire partire adesso. Immaginiamo. Molto presto. Ok, vabbè. Insomma, capitemi, io da molti anni che sogno questo momento e sono un po' impaziente. Capiamo, signor Strad, ma cioè, domani a mezzogiorno dovremmo riposarci prima. Oh, vi riposerete tutto il tempo che vorrete una volta che sarete al castello. No, non è molto importante, perché dai lo dica. Tira solo a girare, fenomeno. Cosa? Vero. Non sta mentendo. Faccio un insight. Va bene, almeno abbiamo guardato un po' per capire le sue intenzioni. Se sei a secondi fini. 7 io. Il suo fine è quello: sposare Irina e farla sua. È però noi percepiamo un po' di umorismo. Innamorato. Dobbiamo solo convincere Irina che lui in fondo è un bel uomo. No, ma lui è effettivamente sincero. Cioè, lui non è che crede che abbiamo sterminato la città per darla a lui. Non so come tu faccia a capirlo. Lui è un uomo molto bello. Allora scusami, lei ci sta. Chiediamo a Irina se ci sta. Scusa, abbiamo chiesto a lei se le va bene. Magari è contenta. Se no diciamo a Strad, diciamo a Strad che Irina l'ha gettata via ed è già impegnata. Sì, che bella idea. A Izek magari. No, alle di vacca. No, a Izek, ma abbiamo ucciso Izek per va bene. Suo fratello. Appunto, in testo. Cos'è che hai detto, Sara? La stava per dare a suo fratello, la potrà dare anche a Strada. Ma non la dava a suo fratello, credo. A questo punto non saprei. Sì, sì. Un po' come cioè, dire. Onestamente, io non ho più intenzione di rischiare nulla per Irina. Voi siete bellacchi. Cioè, soprattutto, cioè, rischiare è una cosa, essere quasi certi del fallimento è un'altra. No, è che... Cioè, andare ad affrontarlo nel suo castello vuol dire morire. No, ma non, ovviamente tu non vai al castello di Strad, però dopo è chiaro che tu sei il suo nemico, mentre prima, vabbè. Infatti la mossa del prendere tempo è stata buona, è che non abbiamo preso abbastanza. È che il tempo sono 12 ore, cioè. No, neanche, dobbiamo già viaggiare. Noi scappiamo. Abbiamo il tempo di scappare, però come la sua carrozza. 10 ore e mezza al castello ci arrivate, tra l'altro mi sembra normalmente. Quindi partendo adesso. È così quindi con la carrozza sì perché aver aumentato un po' le distanze. No, voglio sapere il posto invece dove potremmo sconfiggere Strad. Quanto è la distanza? Il posto del Mai. Qual cioè è un tempio sperduto che dobbiamo cercare da zero. Non ci arriviamo mai in 12 ore. Andiamoci lo stesso, è disperata, ci proviamo. Magari abbiamo idea di dove possa più o meno essere il tempio. Cioè, lui ci riesce a beccare sempre perché c'ha i corvi che ci vedono, tipo. Perché noi siamo in una città per strada. Qualsiasi cosa. Segue le esplosioni, praticamente. Segue i morti. Sì. Ci sta magari anche in contatto con le divacta. Ma però ha detto che deve ancora contattarla. Il suo emissario si occuperà della questione. Passiamo al è premio, il momento però. Convinciamo gli elfi ad aiutarci prima al castello. Prima al castello. Oh, non possono non aiutarci adesso. Ma dobbiamo sterminare gli elfi. Vabbè, intanto abbiamo guadagnato. Prendiamo al loro matrimonio. Sì, esatto. Cioè, comunque dargli Irina, lui la vuole sposare, non la vuole uccidere, quindi niente vieta di liberarla nel secondo momento. Fare sua, nel senso che ah sì, vabbè, diventerà un vampiro anche Irina, cioè, vabbè. Anche Sansa l'hanno stuprata per 8 stagioni, non ha mai rotto il cazzo, anzi, regina di Gran Inverno, quindi ora c'è. Lasci solo un significa solo che dopo oltre a uccidere Strad, uccideremo anche Irina, cioè. Alla peggio. Sarà tutto molto più bello. Amen. Molto più bello. Come le ho già detto, signor Vardistran, è da troppo tempo che aspetto questo momento. E appunto, quanti anni è che aspetti un giorno in più? Esatto, è vero. Sì. Se vuoi passarti il tempo nel frattempo c'è la cameriera apatica che non è male. Chi prima parlava, non mi rivederci. Vabbè, se no, no, è apatica che non traspare emozione. Quando abbiamo finito ho detto grazie, buffa da così lei così certo, Ray si camuffa da Irina. E che fa, dai. E va buio. Ma per me comunque anche l'idea di dare Irina a lui e poi liberarla dopo. Liberarla dopo, cioè, la stai ammazzando, non stai scendendo. Abbiamo ucciso un po' troppa gente per dire la stai ammazzando, cosa stai dicendo dopo che hai sterminato la città? Non è un a parte che non è vero. Avete bruciato anche dei cittadini della chiesa. Quello è capitato. Sai chi ha dato il colpo di grazia a Izek? Beh, grazie, fatto bene a Izek. Era la moglie, il bambino di Izek e tutti gli altri. Il bambino di Izek non è un figlio. Hai ucciso un po'. Izek non ha figli ancora. Hai ucciso la moglie di Izek però. No, la moglie del barone. No, ok. Quello non l'ho uccisa io. Il figlio del barone è in giro. È caduta, però. Sì. Ah! Lord Strad, lei cosa sa del figlio del barone? Non conosco molto bene questa famiglia. È da più di 100 anni che non vengo da queste parti. Casualmente questa sera. Forse mi ricordo il bisnonno di quello che penso possa essere... ormai ex attuale. Mi avvicino a Strad. Capisco se hai fatto di nebbia come l'altra volta. Lo vuoi toccare? Gli porgo il libro degli incantesimi per farglielo vedere. Lo prende, lo sfoglia. Oh, interessante. E poi fa come l'innamorato, gli sfiora la mano. No, se prende il libro è solido. Passandogli cioè, il libro gli sfiori la mano. Ma se prende il libro è solito, che cazzo bisogna sfiorargli la mano? Se sfiorare la mano perché ti piace, puoi sfiorare. Ma non mi piace. Lui comincia a sfogliarlo e dice, ah sì, stava studiando un incantesimo di teletrasporto. Peccato che gran parte del testo sia ormai inutilizzabile. Spero non si azzardi a lanciarlo in queste condizioni. Sì, noi abbiamo trovato... in una stanza in cui era, sì, era recluso, ho visto un cerchio del trasporto, cioè immagino, io in realtà non sono un esperto, però ho fatto un gran tiro, e un cerchio del trasporto ma con evidenti errori, però non sono sicuro che lui l'abbia usato. Ah, lei è medico. Esatto. O non l'abbia, o non l'abbia semplicemente provato a usare, ma prima di riuscire sia scappato. Vabbè, d'altronde il suo padre si è suicidato su un coltello cadendo da una finestra. E anche sua madre. Non ci possiamo aspettare. Oh, beh, posso dire che non c'è nulla da questo regno che entri o esca senza che io ne sia a conoscenza. Quindi, se qualcosa se ne fosse riuscito ad andare... me ne sarei accorto. Troppi movimenti bancari. Per cui deve essere ancora da queste parti. Bene. Beh, la strada, grazie. Adesso, allora vi attendo impaziente. Manderò il mio servitore Radin a farvi da guida per il rientro. Oddio, sì, ma diamogli contro gli elfi per una cazzo di volta. Quello che ti ho detto. Elfi. Cioè, non voleva andare contro il barone, secondo te voglio andare contro il conte Strada? Beh, sì, c'è una faida aperta da tipo sempre. No, magari contro Ravid, sì, però. Mi raccomando, non tardate, non volete farmi aspettare. No, sicuramente no. E si allontana. No, io comunque sono sincero, anche perché io non vedo lui, non so le sue intenzioni in realtà. Le mie. Beh, puoi capire, ormai lo conosci. Poi, non so, ha massacrato della gente insieme a me, quindi per me... Le mie... Beh, è andato via. Sì, le guardie. Le guardie stanno lì a guardare il vuoto. Ok, e dobbiamo fuggire. Quindi abbiamo già deciso di metterci contro strada. Beh, cioè adesso che parte sì, per forza. Però come? Cioè, fuggire. Lui ci trova. Strada è andato, quindi. Strada si sta allontanando. Lui ci trova. Vuoi chiamarlo indietro? No. Che prima di parlare aspettavo che se ne andasse. No, è ovvio che aspettiamo che se ne vada. Cioè, meno che non dica signor Stra, vogliono fuggire. No, scherzo. Io non voglio fuggire. Questa volta non voglio. Noi vogliamo fuggire da dove? Alla ricerca del tempio perduto? Sì. Però... a 12 ore di vantaggio da strada. In mezzo ai boschi. E gli animali che sono servi di strada. Cioè lui sicuramente lo scopre tra un'ora se noi andiamo e scappiamo, cioè capisci quello che è. No, se noi scappiamo tra due ore, no. Vabbè, lo scappiamo tra 12 ore, lo scopre tra 12 ore. Sicuramente far fuori il servo che fa arrivare con la carrozza. E lui andrebbe prima. Però lui arriva, vede che non ci siamo e riferisce subito. Invece se lo facciamo fuori magari guadagniamo un po' di tempo. La carrozza è già lì. Non vedete ancora alcuna carrozza, supponete che... Cioè se arriva fra 20 minuti una carrozza lo facciamo fuori, perché sennò va subito a portare il messaggio e sono scappato. No, magari guadagniamo tempo. Allora, vabbè, facciamo che Strazza è allontanato. Se poi ci interrogano su chi ha ucciso la carrozza. Ok, però... una volta che Strazza è allontanato io rientro in casa. E quindi? E Irina vi guarda e dice... non vorrete veramente consegnarmi a quel mostro? Ti considero. Non abbiamo visto. Chi è? Dove sei? Vieni da Vargotto. È su... c'entra. Perché non vedo niente? Che stai cosa? Scritto tu. Jimmy dov'è? Che se andiamo, ma non vedi i commenti in sta merda. Canta, come ti ha detto? Devi spiegare. Ah no, commenti 10. Cosa vuol dire lo vedi sempre online? Non ci credi che esista davvero? Cosa? Cosa? Hai ragione, sono un ologramma. No, Salla è su Skype. Su Skype. No, Catta no, ma è stato su Skype. Forse una volta. Beh, avermi confuso perplessi. Con Catta, devo dire che... Ma no, è che saremo un po' indietro. Grazie. Qualcosa oggi, ma ti stiamo salutando. Ma è Ale? Sì, io si guarda la barba. Ma che Ale? È Ginny, la cugina. Ah, Ginny, ho visto Ginny. Più saltando che così, sta chiamando. La diretta è partita. Pazzesco, grazie. In realtà sì. Condivide la live. Brava, diffondi il verbo. Va bene, Gigi. Vedi, fatto abbiamo due possibilità. O trovare il modo di prendere tempo, ma... E niente, dai, ci sentiamo. La vedo durissima. Ma tu vieni in Sardegna a luglio? Io onestamente, cioè, se vogliamo prendere davvero tempo per sconfiggere Strada, la Irina a inizio luglio, che altrimenti, cioè, anche per come ha fatto il mio personaggio, va buono, dai, buonanotte. Ma di fatto ecco, sì, adesso gioco. Magari... Ma dimmi poi qual è il periodo in cui l'hanno invitato a casa tua in Sardegna? La prima di luglio, Arci. La prima? Sarebbe? Non lo sai. La prima settimana di luglio, dall'1 sarebbe... al 7. Sì, perché tutte le settimane cominciano lunedì 1. No, però dall'1 dal 30 all'8. Cioè, è brutto dirlo, però di fatto sacrificare quello di me, da lunedì 1 per evitare il male maggiore. Quindi sì, Arci. Lunedì 1. Ginevra Brighetti sta organizzando un video party. Sì, si è organizzato un video party. È vero. Stavolta sì, ha avuto culo. Ma gliel'ho detto a Lena, però lei che posso chiamare 40 persone. E come no, beh, sento. Ospiti tu, Lena. Vabbù. Spacchiamo tutto. Vai, se vediamo se c'è qualcuno. Dai. Va bene. Addio, ciao. Ciao. Va bene, tornando noi. Però era da un po' che non avevamo questa interruzione in diretta, che comunque danno flavor, cioè danno... Allora, cazzo, no, quella merda di Yak. No, ovviamente non la consegniamo. Però dobbiamo trovare un modo per scappare. Sto tempio che ci aveva detto, quanto sarà di distanza? Ha ragione un attimo. Non sappiamo neanche dov'è. Cioè, allora, sappiamo che esiste. Se proviamo ad andare al tempio, lui in qualche modo ci comunque trova. Comunque, posso dire una cosa: quando io sono assente, il piano è tac. In 2 secondi avete il piano, uccidete tutti. Appena sono io, il tempio dov'è? Chi so dove la ho strada? Capito, ma normalmente se ci perdiamo nei cespugli. No, il fatto è che sapevamo esattamente dove era il barone. Tutti siamo arrivati lì. E poi vabbè, la cosa è un po' degenerata, ma le opzioni che abbiamo. Secondo voi ha senso, cazzo, che tu uccidi il barone e dici: ah, Strad finalmente può estendere il suo potere supremo. Cioè, il barone era l'ultimo baluardo della civiltà. Cioè, adesso io metto... Oh, magari funzionava la sua cosa di essere sempre felice. A questo punto, magari funzionava. Magari i suoi festival funzionavano davvero. No, capito, facciamo il festival, soluzione trovata. No, capito, ma ridico, bruciamo la città. No, analizziamo le opzioni. Allora, se andiamo verso non c'era Irina in questa. Se andiamo già, prima non c'era Irina. Se andiamo verso il tempio. Irina, sa che buttiamola nel lago perché così tornano a piedi i pesci. E salviamo. Ci sto. Okay. So. No, aspetta, in realtà no, perché abbiamo scoperto che chi uccide una persona che interessa a Strada fa una bruttissima fine. Noi non la uccidiamo, noi la liberiamo nel lago. È più o meno è uguale. No, allora, analizziamo le opzioni. Però, se proviamo ad andare verso il tempio, primo non sappiamo dov'è, quindi sicuramente i tempi sono lunghissimi e... E lui ci trova. Tempio per il tempio. Ma lui come ci sta trovando? Perché hai periodo. Lui ha praticamente scrive ovunque. Perché se tu, no, quando facevi il vecchio lurido, hai scoperto che ha fatto entrare qualcosa dalla finestra e che ha dei segni sul collo. Quindi hanno un contatto. Non è una non l'ha vampirizzata, ma avranno un contatto. Posso saperlo? Cioè, posso teorizzare queste cose? Beh, per teorizzarle. Magari il mio personaggio non si va. Faccio un insight per vedere se... un'investigation. Dai, un investigation. Vabbè, però, non aspetta, per esserne aspetta, certo, no, ma, diciamo da investigatore aspetta, per mettere insieme i tasselli. Al di là di questi, vabbè, fermo un attimo. Per dire, secondo me è probabile, aspetta, poi in realtà non ne so una mezza. Al di là di quei segni, ragiona un attimo, lui è arrivato con un tempismo micidiale in questo momento, il che vuol dire che è ovvio che lui sta vedendo vabbè, tutto quello fare che succede. Vabbè, investigation. Cioè, vabbè, nel momento in cui è morto il barone, cos'è passata mezz'ora ed è arrivato 15, lui? 17. Magari era qui già da prima. 17. O magari era qui già da prima, cioè stava già osservando. Cioè, se mi sembra semplicemente se mi sembra sensato, probabile. Ma sento lo sciacquone e dice lui, oh, è qualcosa di soprannaturale, ma non è che tu ne sappia molto di queste cose. Capito, ma cioè nel senso è totalmente campato per aria, tipo lo sbarco della luna non è mai avvenuto. Beh, se Giulio mi racconta sta cosa, comunque io posso fare una prova. Ti dico, è plausibile. È plausibile, ma sono delle cose. Dal mio punto di vista me la racconta. Tralasciando questo dettaglio. Scusa, tralasciando questo dettaglio, lui sa che qui c'è Irina con noi e lei per fare una prova su Arcana. Così magari posso dare magari un vantaggio. No, lui me ne parla, magari io dico no, Giulio è una cacata perché oppure però dico Giulio è una cacata perché non è una vaga. Esatto, lui ti dice una cagata, quindi a questo punto. No, però ragiona un attimo. Sì, lui sa che qui c'è Irina. Ti dico che ha tirato 8 di dado. Lui sa che qui c'è Irina. Lui sa che noi, diciamo che il mio discorso è più logico del tuo. Lui sa che la scorteremo e sicuramente lascerà un qualsiasi modo soprannaturale per controllare cosa sta succedendo, cosa succederà qui nella prossima. Secondo ore. Me è lui è, quindi se noi è collegato adesso con Irina più o meno. Sicuramente, perché se noi adesso prendiamo e scappiamo, lui lo sa. Sì, ma essere collegato con Irina è un conto è sapere quello che stiamo facendo noi e arrivare nel momento. No, sapere esattamente cosa facciamo che ha fatto noi non lo sappiamo. Però è quello che ha fatto. Nel momento in cui abbiamo ucciso il barone, lui è arrivato. Il tempismo è stato micidiale. Ma lui è qualcosa che vede anche quello che cioè, facciamo. Dopo 100 anni lui capita qui nel momento diciamo in cui è morto il barone. Diciamo che se stiamo più stiamo in un posto, più facciamo un casino, più è facile che lui... Lui ha fatto i complimenti per tutto quello che abbiamo fatto, quindi lui sta seguendo tutto quello che stiamo allora, facendo. Allora, il fatto è che lui probabilmente ha un contatto con Irina, quindi vagamente gli spostamenti di Irina riesce a percepirli più o meno. Cioè, non sa, è qui. Ok, va bene. Però noi siamo stati in questa città giorni. Comunque abbiamo anche visto Lady Vacca, può anche essere che lei gli ha dato qualcosa per dirgli. No, credo. Abbiamo fatto casino perché ne abbiamo fatto, sì. Quindi comunque in un qualche modo, anche ponendo che le progenie non fossero sue ma fossero perché di qualcun altro. Ma chiamato il barone e Strad perché sì, può essere cioè, perché lei noi dovremmo stare sempre in giro, sempre in diciamo, viaggio. Cioè, beh, potremmo farlo andando verso il tempio, ci spostiamo continuamente. Il discorso è che non abbiamo la vaga di dove sia, però, magari sono giorni di viaggio. Però onestamente a me magari di fare la vita da fuggiasco con i cani di Strad dietro non ho voglia. Ma per forza andare alla vigna lì e poi alla grotta. Basta con sto video, cioè per assurdo sì, per assurdo sì, però prima gli dobbiamo riconsegnare Irina. Per assurdo darle Irina è l'unico modo per guadagnare veramente tanto tempo. Andiamo con Irina alla vigna e alla grotta. Diciamo però forse è proprio il modo peggiore per far sapere a Strad dove cosa stiamo facendo. Cioè, io un'idea c'è, potrei averla, nel senso adesso arriva la Vaktar. Se no, travestiamo Salla di Irina e diamo Salla. Cioè, sconfiggiamo la Vaktar e gli diciamo ora ci devi trovare un modo per schermare Irina. Magari lei lo sa e ci può aiutare. Ok, però se la sconfiggiamo il medaglione. Aspetta, se la sconfiggiamo vuol dire ucciderla. Vabbè, il medaglione ce lo deve dare lo stesso comunque. Beh, abbiamo ucciso Isaac, quest completata. La interroghiamo. Eh sì, però cioè lei è si dice, se la fa con Strad, quindi è contro, se noi se lei no, magari per sopravvivere non è così in contatto con Strad. Non è che è in contatto, però è appoggia lui ed sì, era contro il barone. Lui. È morto il barone, lei si vorrà prendere la città e se capisce che Strad vuole Irina, lei farà di tutto per fargliela avere. Se mai che non capisce queste cose finché non entra in contatto con lui. Se ci arriviamo prima noi. E Strad era qui, però, cioè, nel senso, quali sono le probabilità che ci arriviamo prima noi da Lady Vaktar? Beh, magari non ci stanno adesso. Che, cioè, non ha mandato qualcuno per avvisarlo. Il tempio non è oltre i possedimenti di... Cioè, sempre dentro Barovia. Il tempio perché è dentro Barovia, voi potete andare come solo nelle terre di Barovia, dato sappiamo che esiste questo tempio d'Ambra nascosto nelle montagne. Fine. Questo è l'informazione del nostro. Se vogliamo fare la cosa meno tra virgolette crudele è correre verso il tempio, però non sappiamo dove sia. Però cioè, è la cosa. Rischiamo di passare giorni vagando a cazzo. Non possiamo neanche fermarci a fare delle ricerche da qualche altra parte o in un'altra, cioè nel senso. Sì, se rimaniamo più di un giorno in un posto, il mio personaggio è contrario. Non vi fermerà perché non vi fermerà. Però a me va bene, basta che abbiamo un capo espiatorio nel caso Strad ci beccasse da cui scaricare i colpi. Abbiamo il capo espiatorio, cioè allora, è stato Frank. Allora, siamo a un bivio. Mi spiacerebbe o continuiamo il doppio gioco con Strad dando l'Irina. Cioè, oppure secondo me ormai il doppio gioco non può continuare. Se gli diamo Irina continuiamo il doppio gioco. Se gli diamo Irina che senso ha? Cioè, e prendere tempo perché siamo consapevoli che... Sì, ma prendere tempo vuol dire... Cioè, che fare, giustamente Giulio dice diamogli Irina perché la nostra missione dopo reale... Appunto tanto vale entrare nelle schiere di Strad e voler, cioè... No, è che a questo punto... No, l'idea è uccidiamo Strad, gli diamo Irina, abbiamo tutto il tempo che vogliamo, cioè, anche la sua fiducia... Per fare delle ricerche, per trovare sto tempio e o noi ci e sostituirci, o noi ci riposiamo, andiamo con Irina là e combattiamo Strad, che è un suicidio, no, certo. Il castello è un suicidio, certo, no, ho capito, però il personaggio dice assolutamente no, cioè un suicidio anche no, piuttosto gli do Irina, cioè dagli Irina è l'unico modo per prendere tempo, sì, e la sua capito, fiducia. Capito, certo, ovvio, però a quel punto non è che hai la sua fiducia, sei semplicemente dalla sua parte, cioè... No. Beh, adesso perché gli dai una donna di merda. Assolutamente no. Ho capito, ma è la nostra main quest. Cioè, la nostra main quest a questo punto no, la nostra main quest è uccidere Strad a sto punto. Sì, ho capito, ma non possiamo dargli Rina, dai, cioè... Sei affezionato di Rina? No! Sei innamorato di Rina? No, ho capito. Cioè, ma cioè vuoi dire... Chiaramente... Vabbè, Race, di anche la tua. Scusa, abbiamo appena... Chiaramente è una... comunque, anche lì è... È un elemento, cioè, fondamentale per lui, anche per il suo potere, chiaramente, Rina, cioè... questo no, è solo una sua fissa. Ma... Dubito, cosa fa? C'è qualcosa in più. Adesso si segherà, quando ci sarà Rina non si segherà più. Però non credo che cambi i suoi poteri. Isber cosa dice? Allora, intanto Irina, poverina anche lei, una voce, è rotta dal pianto, ma ce l'ha. Rotto il cazzo. No, Irina può solo peggiorare la situazione. Irina, però tu capisci che noi stiamo rischiando la vita per te. E non ci hai mai dato niente di niente. E niente, quando diciamo niente, sentiamo niente. Sono dispiacere. No, però a me ha fatto ridere ultimamente. Sì, perché dopo aver ucciso Izek, lui è andato a morire. Però non così tanta da morire, ecco. Lei singhiozzando dice: non sarò mai il suo giocattolo. A meno che. Scusa, noi la portiamo e lei dirà: non sarò mai il tuo giocattolo. Irina, tu scusate, invece, a parte fare il frocio con quello degli altri, hai delle idee? Il padre Donavic diceva dell'abbazia. Sì, ci aveva detto di portarla. Potuto essere al sicuro. Quanto è lontano? Quanto gli sta? Dove è la mappa? Hai una mappa? Sì. No, non tu. Irina, tu hai modo di. Sfoglia i vari fogli. C'è un gomito enorme sopra, arrivo. Cioè questa o... Cioè, della Barovia intera o... Della Barovia intera. Questa no. Quindi... Sì. Noi dove siamo? Voi siete a Vallacchi. Che è... Che è qui, dove c'è scritto Vallacchi. Esatto. Però. E Kretzk è qui. Sochmel, quanto c'è? Più o meno. No, 6 ore e mezza. Il castello è qui, Ah, beh, quindi è la stessa distanza. Anzi, anche forse più anzi, forse anche più corto. Allora andiamo all'abbazia. Andiamo all'abbazia. Almeno abbiamo una vita. Questo ha più senso, Giulio, dai. No, cos'è che diceva il primo Don? Che ed è tra l'altro dalla parte opposta del castello. Perché noi siamo qui, il castello è questo e l'abbazia è qua. Lui conosceva che nell'abbazia abitava questo. Cosa facciamo? Aspettiamo la carrozza. Molto prestigioso, molto potente. E che però a piedi sicuro. Il cavallo. Io non ci sono. No, però hai capito perché io aspettavo la carrozza per uccidere il suo scagnozzo. Perché altrimenti lui arriva. E torna indietro a Visa subito. Invece, se ci diamo lo scagnotto, forse guadagniamo tempo. Le guardie sono andate via. Chiediamo gli altri. Se do un pugno a una guardia. Io. Cioè, noi stiamo parlando tante le guardie, tra l'altro. Cioè, mettiamo il proprio. Vino in cambio. Vabbè, aspetta, abbiamo appena parlato davanti alle guardie mesmerizzate. Comunque, ci sono quattro guardie lì con lo sguardo perso nel vuoto. Che... Con... No. Ah, io pensavo fossero andati via tutti. Do un pugno a una. Onestamente. Ah, non si ripiglia proprio. Non avrei parlato così apertamente. Pensavo fosse un adesso, vabbè, mazza, tu adesso cosa fai? Ti risparmi sulle guardie. Vabbè, le leghiamo. Pensa che a una volevo regalare la chime, che a me non serve più, cazzo. Scusa, le leghiamo, le chiudiamo. Sarebbero state i miei servi, le mie guardie. Il mio gruppo da addestrare in un esercito. No, intendevo prima. Cioè, facciamo un po' di... Non meritavi questa fine. Le guardie sono ancora sotto di... E il vaso tutti a quattro. Ah, scusa, non possiamo. Avevo grandi progetti per te. Però scusa, è ovvio che lo faccia lì. Cioè, lo so come dire. Io avevo capito che fossero andati via. Ma sì, ma è ovvio che non lo faccia. Quando vede il sangue sgorgare dalle gole, va sotto. Ma sì, non volevo che finisse così. Ok, è ovvio che non lo faccia davanti alle guardie. Ormai abbiamo fatto. No, però ce lo davo per scontato. Cioè. Ma io no, ho capito. Quattro volte sono quattro. Cosa adesso improvvisamente non si può uccidere un cibo. Ho ucciso quattro guardie. Lui ha già sentito, capito? E le ha già ammazzate, quindi. Dai, partiamo adesso. Sono cadute. Sì, anche loro. Procuriamo dei cavalli. Andiamo dai cavalli, andiamo. Sentiamo dagli elfi se ci vogliono seguire, se no ciccia. Andiamo all'abbazia. Sì. Sentiamo dagli elfi se ci vogliono seguire. Sì, però raga, una volta andiamo all'abbazia, che è un luogo sicuro. Stiamo lì, no, campati, scatolette di fagioli di tonno all'infinito. Noi lì scarichiamo Irina e vaffanculo. E poi andiamo, poi andiamo alla taverna vera. Poi andiamo alla morte nella foresta con Strada che ci cerca. Andiamo a cercare, cioè, scambiamo, insomma, allo stesso punto, uguale. Beh, in realtà lui segue Irina, in realtà lui segue una volta che è vero. Come dicevi tu, è collegato Irina e non a noi, quindi può anche darsi che non c'è. Portiamoci gli Potrebbe volersi anche magari vendicare, certo, di però prima allora Giulio è ovvio che cioè, nel senso, parliamoci, no, se lui non può entrare, la cosa più sicura di tutti è darle Irina, dire: Strad, siamo i tuoi schiavi, facci fare tutto quello che vuoi, così non rischiamo niente, a parte che ci ammazza e diventiamo dei vampiri. Ma quello è chiaro che è la cosa più sicura, però che non sembra così male. Beh, non è che sia proprio negativo, no, ok, nel vero? Senso vero, Allora, pensa, dopo avremo l'eternità per trovare il tempio, poi uccidere Strada e prendere il suo potere. Il mio personaggio ovviamente non lo concepisce, però è che voi se volete un attimo. Il tempio, se dovessimo adesso partire per andare al tempio, in che direzione dovremmo andare, cosa dovremmo fare, chi dovremmo non sappiamo dove esce, non sappiamo dove sapete, dove dovremmo cercare informazioni. Ti ricordi il tizio che aveva parlato l'elfo? Non mi ricordo adesso. Ne aveva parlato l'elfo che aveva la sorella che l'ha lapidata, pur di non darlo a Strad. Lui è l'unico che ci ha detto, ma solo gli avventurieri di cazzuti arrivano al tempio, vi ha detto. Ok, questo me lo ricordo, però non mi ha detto dov'è. Bisogna incamminarsi e andarlo a cercare tra i monti. Sì, vabbè, una volta lei sono montagne qua, qua. I monti sono lì a sud. Si intende, noi sappiamo qua. Qui sappiamo la zona. E tra le montagne non è che sono tante montagne. Cioè, no, segna un monte anche di qua. L'abbazia è qua. E i monti? Qua. E il castello è qua. Porca. Perché, va bene. Scusa, non mi sembra. A me invece sembra la disposizione migliore. No, era meglio se i monti erano tipo qua e l'abbazia qua, così. Così apriamo la porta della chiesa e eravamo sulla pista. Vabbè, a sto punto brucio la casa. Okay. Aspetta un attimo. No, vabbè, a sto punto, scusami, però se dobbiamo. Aspetta un attimo. Se dobbiamo andare qui per poi tornare qui e andare sui monti, è sicuro che Strada arriva, tanto vale. Scusa un attimo, Strad non può entrare dove non viene invitato, no? Giusto? Addio alla noi giriamo con una tenda. Quando arriva Strad ci prende la tenda e non lo invitiamo. Sì, allora, ma può mandare dentro le sue creature. Vabbè, cioè, noi le combattiamo. Ragazzi, andiamo all'abbazia. Immagino quattro coglioni stretti in una tenda. Cosa intelligente. La cosa è, io propongo di partire subito. Andare all'abbazia e chiuderci dentro l'abbazia. E passare la vita all'abbazia. No, almeno dall'abbazia noi andremo nei monti a cercare sto posto, chiaramente. Sì, ma poi dall'abbazia dobbiamo uscire e andare qua. Mentre noi siamo fuori in giro per il monti, siamo stuprabili. Se ci prende bene. Cioè, delle due andiamo nei monti e mandiamo Koljonovic con Irina. Potremmo anche. Ci dividiamo, chiedere... mandiamo Koljonovic con Irina. Mandiamo gli elfi a portare quella cazzo di Irina. Dove cazzo dico io? Gli elfi, finché non abbiamo portato il vino in città, non fanno un cazzo. Andiamo a prendere il vino, lo portiamo agli elfi. Non abbiamo tempo di prendere il vino. Ma venga costo vino, ammazziamo gli elfi e portiamo Irina. Perché vuoi il vino, gli elfi? Ammazziamo il vino. te l'aveva consigliato se per volevi ringraziarti la gente di Vallacchi, okay. Ma non, a lui non cambia un cazzo. Esatto, adesso Dio dagli edifici, dicevo, senti, la cosa è questa, venite con noi oppure vi contro di noi? Oppure state qua, schiavi dei... Quindi partite adesso. Io partirei subito. Non possiamo chiedere a loro di portare Irina davvero però? E noi andiamo verso i monti? È una domanda seria. No, perché prima... loro la lapiderebbero, cioè loro la ammazzerebbero, cioè dove li dai? Appunto, ci liberiamo il problema, sono aspetta, stati gli elfi, aspetta, quegli parliamo... stronzi. Aspetta, parliamo di... Secondo me è vero che il capriccatorio sembra scioccato. Aspetta, sono parliamo stati degli elfi che da generazioni che non hanno una donna e gli diamo una donna. Sono stati questo. Gli elfi, quei bastardi a uccidere Irina, noi stavamo portando... Cioè, colpa, andata... Diciamo che è colpa degli elfi che la Germania... Non è andata agli elfi, diciamo, ragazzi, domani arriva Strad, arriva il tizio di Strad qua. Non troveranno una tizia, non domani, adesso, e spaccano arriva, tutto quello che trovano. Volete stare qua oppure venire con noi alla cazzo di abbazia e poi cercare il coso? Ma e loro diranno vogliamo morire schiavi degli stadi. Ma gli elfi quanti sono, visto che ne parlavamo, ci fossero decine di no, saranno tipo 12, no, saranno una trentina. C'è il villaggio, quello che c'è lì, no. Ah, sei trentina. Il master. Sì, esatto, sei certo. Master. Sì, devo mettermi a contare numero... i mutande appese fuori dal villaggio. Numero di case, sai che in ogni casa ci sono più o meno 5-6 elfi, forse anche di più, sono abbastanza grandi. 2, 4, 6, 7 case. 7 case. 7 persone, sì, una trentina. Vabbè. Tra i 30 e i 40. Vabbè. Caccia via. No. Quindi la risposta è partite subito. Però prendiamo la dieta dagli elfi. E andate subito dagli elfi nel con cuore della notte. Con dei cavalli che potete trovare nelle stalle. Cosa prendiamo? I nani come funziona? Possono cavalcare normale? È di taglia media, no? Sì. Quindi. E andate dai. I nani come funzionano? Dagli elfi di gran carriera. Razzista di nani. Portandoli dietro, quindi. Allora, Irina la mascheriamo. Puoi mascherare Irina? Per non farla riconoscere. Camuffare Irina. Camuffare la strada. Cioè, uno ci prova. Ah, sì, come sì. La camuffa Irina, però ha un'armatura. No, se lo sfreggi la faccia in modo che non sembri più Irina. Ma dove? Non lo so. Ha tipo il simbolo con scritto di Irina davanti. E glielo togliamo quel cazzo di simbolo con beh, scritto Irina. Beh, mettiamo un altro. Non lo so. Vabbè, sarà, dai, prendiamo un vestito che c'è in questa villa. C'è un vestito. Non quello da sposa, magari. Sarà un vestito della moglie. Strazi. Magari non quello sporco. C'è un guardaroba pieno di vestiti. Ok, la cambiamo e... Ma metti un vestito al cameriera, che cazzo della moglie, la nobildonna, la veste. Sì. Chi se ne frega, basta che non sembri Irina. Appunto, se magari la veste a cameriera, ancora... meno sembra una Irina, che è una nobildonna ed è di solito vestita con un'armatura e con degli abiti comunque belli. Cioè, secondo te o dovremmo star qua a aspettare il tizio e uccidere il tizio di strada? No, io sono per consegnare Irina, questa è la mia idea, però... secondo te, Sala, dobbiamo aspettare il tizio della carrozza, no? Perché? Nel senso. Oh, okay. Cioè, io lo ucciderei... Stai invendo contro ogni tizio. Come si chiama? Radin. Io Radin lo ucciderei, ma non so se ne sono in grado, quindi vai. Infatti andiamo. Andiamo. Avete visto che bella la diretta Facebook su cosa è stoppata? Ho fatto uno screenshot. Dammi la bloccata? No. Ah, lì si è bloccata. No, lì è tutto bene. Sono bloccato. Vai su vai su sulla chat poi quando. No, nuova foto. Probabilmente o stavi nominando il vino o gli elfi. No, nuova foto di Taito. Finalmente uscite da Vallacchi. Posso bruciare la casa? Puoi bruciare la casa. Ancora così. No, Giulio, devi andare, cosa vuoi bruciare? Basta. Cioè, ci sarà dell'olio, che spargo l'olio. Ma perché? No, non perdiamo tempo. Cioè, se vogliamo aspettare la carrozza. Mentre voi prendete i cavalli, brucia la casa, non è che dove andiamo? Cioè, aspetta un attimo. No, cioè, mentre siete fuori, noi andiamo dagli elfi. Lui intanto farà quel che vuole. No, vabbè. Cioè, mentre recuperate i cavalli, cospargo d'olio. Ci saranno delle botti d'olio in questa casa, cospargo d'olio. Vabbè, tutto legno, poi fai presto. Va bene, ma c'è lì, magari avvisa la servitù. Ah, sì, no, questo è quando Giulia ha fatto 20. Si è riconosciuto. Sì, sicuro, guarda, sei tu che guardi giù. Stavo dicendo, se volete. finalmente uscite da Vallacchi. Sì, dopo scuole, sì. Vabbè, se non volete salire di livello, usciamo da Vallacchi. Ah, sì, dopo... sei un pezzo di merda comunque, cioè senza come la detta. Dopo infinite sessioni. E dopo sei Strad, ah no, adesso arriva Super Strad. Di terza il cugino di Strad, perché stiamo uscendo dalla città, per quello c'è la Super Strad. Super Strad. Andiamo da Stiera. E questa non è neanche la mia forma finale. È carina. E probabilmente lo Strad sarà Super Strad. Andiamo da Yelta, però non ci andiamo di... cioè ci fermiamo prima e andiamo di soppiatto nella capanna del fammi pizza. Finire vuoi salire di livello porca probabilmente le cose sono andate in maniera inaspettata, ma sicuramente la situazione l'avete influito sull'avvicendarsi degli eventi e in un qualche modo avete ristabilito un nuovo ordine, quindi potete salire di livello. Va bene. Ma in realtà questo livello è stato un grazie, più veloce di quello prima. Un grazie molto più veloce all'inspiration usata da Vez, che è servita. Mi è sembrato è stata fondamentale. No, ma il quarto livello alla fine, cioè il terzo livello c'erano stati molto di più. Sì. No, avete fatto. Sì, sì. No, sono d'accordo con lui, siamo saliti da poco. Siete arrivati da. Avete fatto il mulino, siete arrivati alla Vallata, avete fatto il quarto livello. Tutta la città, siete smazzati tutte le cose di tutti i personaggi. Abbiamo fatto più cose, sì. Ma in tempo ci sarà molto di più al terzo livello. In tempo intendi come numero di sessioni o come numero di giorni in gioco? Io vorrei fare la roba degli elfi, vedersi se seguono e poi chiudere. Gli elfi, arrivate. Arrivate lì con i cavalli, scendetevi avvicinati soppiatto. Sì. E notate al limitare della foresta un palo a cui è legato una figura. Chi è? Di avvicinate. Sì. Però... è il vostro amico Izek. Casimir Velikov. Pesto in volto e legato al palo, lasciato lì alla merce degli elementi. È finta di non vederlo. È vivo. Ha perso i sensi. È finta di non conoscerlo. Sai come si fa? Alle mani. È legato. Lo sveglio, dai. No, Vesche, poi. No, andiamo via. No, basta. Lasciatemi in pace. No, andavamo via. Casimir, cos'è successo? Casimir? Sei tu, Vardis. Extra attack. Lo sapevo che non potevo fidarmi. Ho fatto come mi hai detto. Ho provato a piantare il seme della ribellione dei miei altri fratelli, ma mi hanno esiliato e mi hai condannato a morte. Sono solo e disperato. Che merda, Vez. Però che ride, che ride, è questa che ti lancio un D10. Sì, hai riso. No, mi sono soffiato. No, prima hai riso. Non ho riso. Sì. Mi hai condannato a morte, tu hai riso. Cioè, è assurda sta cosa, sono dei gran... La paura alberga ancora nei loro cuori. Non hanno voluto ascoltarmi. Ma, vabbè, domani verranno tutti distrutti. Vieni con noi tu invece. Salvati chi tu puoi. Oh, grazie, Vardistrand. Sì, liberami e portami lontano via da queste terre. Vai, portiamoci dietro Casimir e buona. Che scandalo gli elfi. E avete visto la 12ª puntata della maledizione di carta. C'è un nuovo boss, un nuovo sceriffo in città. In tutto questo le divatta. Sarà, si prenderà la città. Sì. E volevo la città. Ciao Salla. Ha salutato così. Morto? Ho sbagliato. Allora, giusto. Scusate, stavo facendo LOL e altri 12 giochi. Niente, raga, l'emozione è stata troppo forte. Ti sei forse perso il finale. Cosa è successo? Elfo? Sì. L'hai perso? Elfo l'hai sentito? Sì. No. Ah, ok, un po' più saltato, non sei davanti. Prendo un cazzo io in campo. Niente, c'è il capo degli elfi legato al palo, che gli altri quinto... l'hanno... i cantrip diventano più forti. Beh, ora cazzo. Guarda, guardati questo. Oh, 9. Oh, brutto. Oh shit. Va bene, e con questo mio tiro chiudiamo la sessione, direi. Vabbè, aumenta di proficio. Casimir, il capo degli elfi, è stato esiliato dagli altri perché gli ha detto di seguirci e loro in risposta l'hanno esiliato. Solo perché non ha voluto che io facessi il discorso davanti a loro. E come tradizione è stato lapidato. Però adesso non ce la portiamo dietro. L'ho lasciato agli animali del bosco per quindi dargli... siamo noi, Ismark, Irina e Casimir. Dai, cominciate ad essere un bel gruppetto. E ora che muoia qualcuno. Cioè, onestamente, il fratello di Irina qual è la sua tecnica? Boh, in teoria saprà combattere. Non ha mai fatto nulla. È solo stato portatore di fastidi. Potevamo portarci anche le guardie. In serio, che tu qualcuno non l'avesse ucciso. Ha sgoppato. Va bene. No, no. Grazie a tutti per averci seguito. Per la mia cugina. E... Grazie Ginny. E ci vediamo nei prossimi episodi di Tycoons & Dragons con la maledizione K. Lunedì prossimo! Ormai decido io la sessione. Adios. Me ne vado in bagno. Va bene, raga, io non mi vedo neanche più, però vi saluto. Noi ti sentiamo. Ciao Salla. Ciao. Ciao ti Salla. Sentiamo e ti vediamo. Poi saliamo di livello comunque. Sì, siamo saliti. Quello lo sentite, infatti con troppa eccitazione è cresciuto. Vabbè, allora dai, ci sentiamo per la settimana prossima, Sallino. Ma ha letto bene a parte Skype che lasciamo, ma quello è il problema del computer. Sì, sì, no. Sì, sì, è andata bene. Sì. Noi, francesi non noi t'abbiamo sentito bene e visto bene. Bene, bene.